parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Allora ragazzi, sentite questa incredibile arroganza dell'uomo, questa meravigliosa arroganza di un uomo chiamato... Ma siamo anche in diretta su questa roba Periscope, che non so che cosa sia. Posso però... dirti francamente una cosa? Che me ne sbatto. Ma stanno riprendendoci tutti, ma Twitter in continuazione, non è il presidente della regione Lombardia. Vabbè, mi fai proseguire per favore invece di fare queste cose. La tecnologia, amico mio. Allora, sentite l'arroganza di quest'uomo che si chiama Massimo D'Alema. No, ecco, già Massimo stai iniziando D'Alema. Molto male, ma molto, no, ma molto sentiamo, male. Lui dice che moltissimi cittadini comprano il suo vino. Ma certo, evidente. Lei ha detto che il suo vino va a ruba. Ci sono molte cooperative tra i suoi clienti. Ci sono molti cittadini che lo comprano, moltissimi. Sentite che battaglia con un giornalista, eh? Una grande battaglia che finisce con mi lasci il suo nome. Minacce di querela. Mi lasci il suo nome, che la denuncio. Qualcuno ha ritenuto inopportuno unire l'immagine di una convention del PD, del Partito Democratico, così elevata, con una vendita. Diciamo, quegli acquisti sono avvenuti nel corso di 2 anni, non in una convention del PD. Lei dice delle cose sciocche, quindi la pregherei, siccome sto denunciando oggi diversi giornali, denuncio anche lei con l'occasione. Lei ha detto che ho venduto il vino durante una convention del PD, eh? Come si chiama lei, scusi? Devo trasmettere al mio avvocato questa informazione. Perfetto. La prego di mandare questa registrazione, avrà una denuncia. Allora, posso dire una cosa? Io non so se... Ha ragione. Ma che so, tutta la linea, poi ti spiego perché. Non so se è vero o no che il vino è stato venduto, probabilmente no, durante una convention del PD, non c'entra assolutamente nulla. Sicuramente è una follia denunciare così in una sala, dire io la denuncio, eccetera, eccetera. Calma, signor D'Alema, calma. Ripeto per l'ennesima volta, è successo milioni di volte male. Che esponenti del Partito Democratico abbiano maramaldeggiato, abbiano nuotato nella merda delle intercettazioni, nella cacca delle intercettazioni, male. Abbiano preso questa cacca e l'abbiano tirata addosso ad esponenti male. Dell'altro partito. Male. Ma non lo so, male. Tu certamente non dicevi male. Ma dicevo male. No, perché non c'entra con l'inchiesta. No, come dissi male quando vennero pubblicate le intercettazioni tra Ricucci e l'Anna Falchi. L'Anna Falchi non c'entrava nulla. Era all'epoca fidanzata del signor Ricucci. Vabbè. Vennero spiattellate le sue telefonate e non c'entravano nulla. Ancora. D'Alema questa volta ha ragione. D'Alema ha ragione. Ma quando mai? Ancora D'Alema. Noi abbiamo venduto dei vini alla cooperativa CPL, è vero. E non è un reato. Io non sono indagato per nessun reato. Allora perché si deve rendere pubblico in un atto giudiziario cose private di persone, tra l'altro in questo caso si tratta di mia moglie, che non sono indagate, che non hanno compiuto alcun reato e che vengono semplicemente gettate in pasto così all'opinione pubblica per poter essere diffamate. Beh, benvenuto caro D'Alema. Benvenuto nella realtà. Dopo tanti anni in cui la sinistra post-comunista ha utilizzato le intercettazioni contro gli avversari, adesso ci si accorge di una cosa quando riguardano la propria storia personale, la propria onorabilità. Beh, allora c'è, si coinvolga il CSM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Meglio tardi che mai, meglio tardi che mai, non c'entra nulla con l'inchiesta. Vabbè. Oh, ma sai che siamo in diretta anche su questa roba qua? Ma è una cosa meravigliosa. Ci vedono anche. Davide? Che? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ma perché Mughini? Non ho capito, scusa. Allora, D'Alema e Sallusti. Capito. D'Alema e Sallusti. Senti, senti, senti. D'Alema e Sallusti ieri da noi. Ieri da noi D'Alema è il più antipatico della politica. D'Alema sta molto antipatico, anzi è la persona più antipatica della politica italiana, è un furbacchione, è inaffidabile, è un comunista, è proprio è il classico burocrate comunista, orgoglioso di esserlo, presuntuoso, arrogante della sua superiorità etica. In questo senso gli sta bene, perché chi di intercettazioni ferisce, poi di intercettazioni ovviamente perisce. Allora ragazzi, sono minacciato di morte da animalisti. C'è un signore che si chiama Enrico Rizzi. Dopo come di morte? Dopo vi leggerò dei cose, dopo vi leggerò dei messaggi che mi sono arrivati. Enrico Rizzi è il sedicente presidente di un'associazione animalista che ogni tanto abbiamo chiamato, il quale ha detto che io voglio mangiare l'agnello a Pasqua e beh, sì, che c'è di male, questo. Insomma, sì, certo, ma certo nulla, che l'ho detto, ma non c'è nulla di male. Nulla di male. L'agnello, il coniglio, questo che mi piace tantissimo, eccetera. Mi ha dato dell'assassino, quello che. Ma non sai i messaggi che sono arrivati? Cioè? Ma è una roba incredibile, dopo te li leggo. Cioè, è una roba impressionante. Ma sul cellulare? Ma no! Al 33544. No, no, no, non dire il numero del tuo cellulare, dai. Cosa succede in Forza Italia? Sapete che la moglie di Sandro Bondi, Manuela Repetti e lo stesso Bondi hanno lasciato Forza Italia, sono andati nel gruppo misto, due insomma fedelissimi di Berlusconi. Giovanni Toti, che è uno dei collaboratori del presidente, dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi e che probabilmente sarà il candidato in Liguria di Forza Italia, del centrodestra, pare che la Lega ritiri il suo candidato, cosa incredibile, questo accordo Salvini-Berlusconi, Toti dice che se ne devono andare dal Parlamento. Dimettersi. Io credo, ma non vale solo per Sandro Bondi e per la sua compagna, che chi non si riconosce più nel partito che l'ha eletto in Parlamento dovrebbe per prima cosa dimettersi dal Parlamento, non dal partito che l'ha eletto, perché continuare a lavorare pagati dai cittadini per rappresentare una parte di persone che ti hanno dato il voto perché erano sotto, eri sotto quel simbolo Berlusconi presidente Forza Italia, uscire dal partito. Beh, un mondo che finisce, un mondo che sta per chiudere bottega, secondo me. Sta Beh, no, per chiudere bottega. Sì, secondo me sì. C'è Berlusca sta per chiudere. Un mondo che sta per chiudere bottega. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, sì. Beh, un uomo molto vicino, molto amico di Massimo D'Alema, è un famoso chef, si Bene. Chiama Gianfranco Bissani. Oh, caro Gianfranco, come stai? Grande Bissani, grande, maestro. Cruciani e Parenzo, mi raccomando, tranquilli. Noi siamo tranquillissimi, caro Gianfranco, siamo tranquillissimi. Mai come te ti ho visto in splendida forma al Binitali indossare dei mocassini rossi. Sì, sto degli bene. Splendidi mocassini. Ma non è mica un reato questo. No, no, no, no, assolutamente. Ma com'era l'impelle? Tu, sai, dimmi, dimmi. Tu lo sai chi è che me l'ha rovinati? Chi te l'ha rovinati? Alessandro Regoli con sai quel news, quella chi è Alessandro news Alessandro Regoli è un personaggio del vino. Ah, è uno sì, molto sì. importante a Montalcino in tutto il mondo. Ma come te l'ha rovinati, scusa? Dando una botta sulle scarpe, è terribile. Ma quanto costavano quelle orrende, secondo ma me, orrende? Scarpe? Cioè bellissime, quei mocassini rossi a ghiacciare. Tutta invidia, tutta invidia. 10 euro a Porta Portese. Ma quale 10 euro a Porta Portese? Ma quando? Ma erano in pelle umana, secondo me, no, mocassini sì, rossi in pelle umana. Senti, ma sei vicino a D'Alema in questo momento molto duro o no? Lo hai sentito per telefono? Tu che sei, come dire, una persona che lo ma ha conosciuto? Io non è un problema. Io penso che Massimo D'Alema sappia quello che dice. Però i vini sono molto buoni. Ecco. Tutto quello che dicono di Massimo D'Alema, questo... sono cose che non metto becco, però i vini di Massimo D'Alema da Sfide a Nannò oppure magari alle Maddalene sono dei grandi pezzi. Vabbè, ma no, se lo dice lo chef, io ci credo. Lo chef. Però adesso Gianfranco lo dici perché sei amico tuo. Non lo posso dire, no, infatti non lo posso dire perché sono di parte, però ti voglio dire, ricordati che Nannò a quel deposito che solamente i grandi Bordeaux lasciano, quel vino. Cioè, si avvicina... Ma che ne sa? Cruciani beve solo la birra. No, io non capisco. Sto somaro beve solo birra. No, che ne sa? Di... Cioè, i vini di D'Alema, aspetta, Gianfranco, tu stai dicendo: i vini di D'Alema si avvicinano ai grandi Bordeaux. Sì, perché il Marnot specialmente, che ha pronta bevitura, perché veramente ha classe, raffinatezza, morbidezza, eleganza. E non a caso che Cottarella abbia fatto questo vino, perché Cottarella io penso che sia uno dei più grandi tecnici. Però scusami Gianfranco, tu l'hai comprato? Cottarella è quello che D'Alema ha portato. L'ho comprato, tu ce l'hai? E guarda che l'ho assaggiato per prima io, la prima bottiglia l'ho assaggiata io. Ma la gente lo compra là da te o no? Lo ordina o no? No, ma non è il problema, lì si chiama Le Maddalene, non c'entra niente Massimo D'Alema, perché tutti quanti noi possiamo ma fare. Ma l'ex sindaco, no, il sindaco attuale di Salerno, De Luca, dice che sto vino è una zozzeria. Ma che ne ho letto sa, oggi Luca, un'intervista, ha detto una zozzeria. Forse De Luca mangia la mozzarella, non beve vino laggiù. Cioè tu dici che non se ne intende troppo di vino, dici, come si fa a dire la zozzeria? Non deve dire queste cose, perché cioè, i loro discorsi politici non ci interessano, ma quando si parla di un vino che è stato cresciuto come un bambino e portato... avanti piano cioè tu metti la mano sul vino di D'Alema, metti la mano sul fuoco, insomma, metto la mano sul fuoco, perché è veramente buono, cioè, non però credo, l'uomo credo. Guarda, io sono di parte, non lo potrei neanche dire, però ti voglio dire che il vino di Massimo D'Alema è una grande bottiglia, cioè di vino. ci sta che una cooperativa ordini 2000 bottiglie di vino questo di D'Alema, questo io non lo so, non forse gli servivano, non lo so. Certo. Però è un po' inopportuno, diciamo la verità, Gianfranco. Ma perché deve essere inopportuno? Che è una cooperativa. Dammi un tuo giudizio. Secondo te è un po' inopportuno? No. Io non lo so il motivo. Forse ci sta tutto, perché quante aziende vendono e comprano vini 2000, vabbè, 5000, però... 6000? Mica D'Alema è una cantina sociale. È un piccolo. scusami. Certo. È un piccolo produttore. Capito. È un piccolo produttore che ha creduto nel vino e io spero che ancora. Però chissà perché la cooperativa poi aveva interesse per stringere affari con esponenti del Partito Democratico che magari facevano capo a D'Alema, cioè non è che nessuno fa niente, ragazzi, per nulla, dai. Ragazzi, voi siete cattivi tutti. No? Però tu metteresti invece la mano sul fuoco sull'onestà di D'Alema, secondo te è onesto? Lui è un personaggio, io sì, ce la metterei l'onestà di Massimo D'Alema. Ma io ti ho detto, io non faccio testo, io sono di parte. E a me, ma che c'è? È un suo amico. Ma tu un libro di D'Alema l'hai mai letto? Ma io dimmi la verità, dimmi la verità, la verità, un libro di D'Alema, amico mio. Senti, io ero molto amico di Federico Umberto D'Amato, che è stato il mio mentore. Federico, allora... conoscevi Federico Umberto D'Amato? Ma così vagamente, ma che vagamente, c'entra? Io lo conoscevo. Ci sono menù e dossier. Leggi quel libro, poi ti capirai tante cose. No, ma i libri di D'Alema li hai letti o no? No, come no, qualcheduno, ma qualcuno di sfuggita. Di sfuggita, en passant, così non è fondamentale. Io non posso essere un intellettuale che si mette a leggere libri. No, a me non è neanche leggo i libri di come si chiama? Di chi? Aspetta un attimo, adesso ti ricordi, va, Traff. No, non mi ricordo. Traff, l'ultimo libro che hai letto, qual è stato, Gianfra? Boh, nessuno. Come si chiama? Abifale. No. Scusami, Vespa, di Bruno Vespa, non leggo i libri di Bruno Vespa, di come Massimo D'Alema. L'hai letto? Bruno Vespa, sai, ne ha fatti quanti, ne ha fatti. Ma l'hai letto o no? Libri di Vespa? No. L'ultimo libro che hai letto? Posso leggere quelli di Umberto Eco che parlano ultimamente, che parla di gastronomia, insomma, cioè coloro che hanno portato risalto a qualche cosa di utile di cucina, per questo nostro paese. Non siete seri per niente! La Zanzara è il più grande bar d'Italia. Allora ragazzi, ragazzi, abbiamo con noi Gianfranco Bissani, lo amico chef personale di D'Alema, che lo chiamava anche, com'è che lo chiamava? Maestro. Il maestro, maestro Bissani. No, lui si chiama il maestro perché è il maestro della cucina. D'Alema lo chiamava così. È come i fratelli italiani nel cinema, il Fellini della cucina, è una roba sofisticata, mica. Vabbè, ma tu sei abituato a queste cose sofisticate. Ma mica quello che mangi tu, ma non sai neanche quello che mangi. Ma ti dispiace, tu, ti dispiace almeno il fatto che il tuo amico D'Alema sia coinvolto in queste storie, con la gente che lo rincorre, i giornalisti che gli rompono i coglioni, che gli chiedono cose. Lui veramente lui è molto fastidioso per queste cose, lo conosco bene, gli danno molto fastidio. Gli danno molto fastidio, beh certo. Però è arrogante, diciamo la verità, è un po' arrogante. Non è vero, ascoltami, se conosci Massimo D'Alema, tu vedi che è l'uomo più semplice di questo mondo. Vabbè, io un non po' arrogante, dai, un po' ma arrogante ragazzi, è il suo modo, anch'io quando Vissani è burbero, Vissani manda a fanculo tutti, Vissani qui, Vissani. Per forza, perché io sono, faccio il mio mestiere. Anche Gianni Rivera, quando giocava a pallone, nessuno lo poteva vedere perché era duro, era severo. Cioè, tu dici solo i numeri uno fanno così. Solo bravo, i numeri uno non lo volevo arroganti dire io. No, ma dillo tu. Arroganti, sanno il fatto loro. Tra Renzi e D'Alema non c'è paragone a livello di spessore politico, dici tu. Cioè, proprio. Ma no, sono due cose diverse. Però ti voglio dire, ascoltami, dimmi, come fate voi a dire se quante volte una persona che avete, siete messi seduto a tavola, dicevo, quello è antipatico, non lo sopporto, e poi alla fine della serata il risultato si cioè se uno lo conosce non lo evita, dici? No, se uno non lo evita perché lui sa quello che deve fare. Ma è anche ironico, no? Io l'ho conosciuto, è molto ironico. Noi veniamo dalla terra, la terra non è intercambiabile. Senti Gianfranco, tu mi devi raccontare davanti al grande pubblico quella barzelletta fantastica che mi hai detto a Verona. Ti prego. No, tu sei matto. Ti prego. Ma non ci provate niente. Ma quale barzelletta? Una barzelletta strepitosa. No, io non mi ricordo nessuna barzelletta. Io sì. Ma non c'è niente di strano, una barzelletta fantastica. Ma quale barzelletta? Ma avrai bevuto troppa birra, dai. No, una barzelletta in cui c'era una rom incinta, una zingara. Sì, era stupenda, meravigliosa, che ha tre figli di cui uno di 20 anni. Ma allora la sai tu la barzelletta? Non me la ricordo bene, ma Gianfranco la raccontava benissimo. No, ma era stupenda. Io non posso dire quella, questa è fatta in televisione, radio. Ma sei mica un politico. Non è corretto. Ma perché? Che c'è? Se è una barzelletta si può raccontare. Io ti posso raccontare solamente questa barzelletta. Dimmi. Sentiamo. Allora a un certo punto c'è una mosca che cade, che batte contro un vetro e va a finire nel ruscello. Sì. Si bagna tutta, cerca di. Poi a un certo punto passa un pesce, dice tu chi sei? Sono una trota salmonata. Una trota salmonata. O trota o salmone? No, sono una trota salmonata. Come hai fatto? Mio papà era un salmone, mia mamma era una trota, hanno fatto l'amore e sono nato io. Mamma mia. Cerca di. Si stava asciugando, si alza per spiccare il volo, vede passare. Dice tu chi sei? Io sono un cane lupo. Ah, tu sei come la trota. Dai, su, falla finita. Dice, ma sei un cane o un lupo? No, sono un cane lupo. Dice, ma come hai fatto? Dice, mio papà era un lupo, mia madre era un cane, hanno fatto l'amore e sono nato io. Dice, ma poi tu sei matto come la trota. A un certo punto si stava girando e sente fare zà. Dice, tu che sei? Una zanzara tigre. Ma vaffanculo, va. Però Gianfranco, quella dei tre rom era fantastica. Beh, quella è troppo sporca, però, si può ma dire. Non è sporca, ma non dai. È sporca, era fantastica. Ma guarda che non passi mica, ma che vuol dire? Cioè, allora c'è una signora incinta rom, ma una tu signora, che ne racconta una tu signora se la sai. Incinta, io non mi ricordo i dettagli. A un certo punto di fronte a uno non raccontarla, dai, ti prego. Ma perché no, non si può raccontare, dai Cruciani, ma per piacere. Guarda che sei terribile. Ma è incredibile, guarda, siete veramente dei moralisti pazzeschi. Ma no, ma c'è contesto. Raccontate qualsiasi cosa, la barzelletta sui rom non si può raccontare. Ma guarda, ma raccontate chi? Ma sui froci raccontiamo di tutto, adesso non possiamo raccontare sui rom. Ma quella lì, no, che c'entra? Mica il pezzo finale che è un po' antipatico. Il pezzo finale lo edulcoriamo, come inizia? Facciamo solo come inizia, poi alla fine la dico io. Ascoltami la novella, c'è un ragazzo che ha tre figli, questa rom c'aveva un figlio di 20 anni, un figlio di 15 e un figlio di 7. Sì. Dice questo di 20 anni, dice, tutti gli attici sono i suoi, tutte le cassaforte le fa fuori tutte, le apre tutte. E questo di 15 anni, terzo e quarto piano, cassettoni, letti, tutto. E questo di 7 dice sugli autobus, borsette, portafogli, dice è proprio veramente un treno. poi basta. Poi c'è lei che è incinta. Lei è incinta. E poi c'è la pubblicità. E qui dentro ce n'ho un quarto. E qui dentro ne ho un quarto in arrivo. In arrivo, no? Ma è già agitato questo quarto in arrivo. Pensa che l'altro giorno ho messo la mano sotto e mi ha fregato la mano dentro, dito dentro e mi ha fregato un anello. Ma guarda, sei terribile. Sei veramente il numero uno. Questo mi sono pisciato sotto per 20 minuti. È stupendo. Confermo perché è stupenda. Ero nelle Senti, ma è vero secondo te, come accusa Caprotti, che Farinetti è un po' avvantaggiato dall'amicizia con Renzi e dunque ha ottenuto degli appalti senza gara, eccetera, no, eccetera, eccetera? No, Cruciani non so di queste cose. Oscar Farinetti è un amico ma allora siete tutti amici e tutti. Siamo tutti amici. Conosco queste storie, queste vicende, queste storie, non mi interessa. Io vi dico ancora, ve lo riconfermo, Narno Sfide e le Maddalene fanno parte dei vini di Trema e sono grandi vini. Abbiamo la certificazione di Vissani qualcuno ha detto addirittura che se si presenta in Francia li fanno le pernacchie. Esatto. È sbagliato. Invece si assomigliano ai grandi Bordeaux. Devo chiudere. Ciao Gianfranco, a presto. Ciao. Cruciani e Parenzo, mi raccomando, tranquilli. Ormai è tutto degradato. Ormai. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Il Senato ha dato l'autorizzazione a procedere, cioè sarà processato Carlo Giovanardi per la vicenda di Altrovandi. Sarà processato, ripeto, per una frase che è stata detta qui alla Zanzara, è stata pronunciata qui alla Zanzara da Giovanardi nostro, quella sulla foto di Altrovandi, cioè dire sul sangue. Non è sangue quello che si vede nella foto, disse Giovanardi. Ottima notizia. Perché non è stato massacrato questo ragazzo? No, quella foto che ha fatto vedere la madre, una foto terribile, ma quella macchia rossa che è dietro è un cuscino, non è sangue quello. No, è vero, la foto è vera, l'avevano appoggiato la testa su un cuscino, no, non è sangue, ma neanche la madre ha detto che è sangue, e neanche lo può dire, perché non è così. Questa è la frase incriminata, ripeto, alla fine non sarà protetto dall'immunità Giovanardi. Molto bene. Perché molto bene? Molto bene, perché come un cittadino qualunque si confronterà in un'aula di tribunale rispetto, a mio avviso, alla diffamazione che fece proprio anche in questa trasmissione. Quindi Giovanardi va in tribunale, visto che hai minacciato di portare me in tribunale perché ebbi a dire una frase che hai giudicato forse poco commendevole, cioè che secondo me sei uno sciacallo politico. Lo aspetto, sono felice che dovrà rendere conto di quello che ha detto in tribunale e non c'è nessuna immunità per lui. Molto bene. La frase di Sallusti di ieri qui alla Zanzara: se passa il matrimonio tra omosessuali, uomo uomo, donna donna, sostiene il direttore del giornale, non solo c'è la poligamia, ma anche il matrimonio con un animale. Famiglia è un uomo e una donna in grado di procreare, punto. Se tu togli quella cosa lì, va bene tutto, ma perché non un uomo e un animale? Perché no? Perché no, in teoria, un uomo e un animale, io amo il mio cane, lo voglio sposare, perché no? Se amore è uguale matrimonio, io posso amare uno del mio sesso, tre del mio sesso, un animale, una pianta, una qualsiasi cosa. Il settimanale Vanity Fair ha incontrato il signor Dipré. C'è sui Giovanardi, ci sono già gli hashtag del signor Cavalli che giustamente lo prende in giro. Allora, il settimanale Vanity Fair ha incontrato Andrea Dipré, seduto sul letto sfatto e macchiato di un set porno, incontra alle lenzuola una scatola di Viagra. Siamo nel sottoscala di un residence di Praga. Attrici pagate 300 euro a scena entrano ed escono senza salutare. Ma ti stupisce, Parenzo, che Di Pre, un trentino di 40 anni laureato in legge, è entrato nel mondo della televisione aderendo alla Lega per poter lavorare a Telepadania? No, anzi, no, beh, questo conferma che alle volte Telepadania fa delle cose anche, no, originali. Però no, non mi stupisce. Ha un curriculum perfetto per quella ex televisione, perché l'hanno chiusa, mi pare, no? Sì, mi sembra di sì, mi sembra di sì. Beh, possono sempre assumerlo alla radio, a Radio Odio, lì come si chiama? Radio. No, dai, Di Pre a Radio Padania, no? Radio Padania. Beh, in linea con la linea editoriale del. No, vabbè, ma la linea editoriale è dice Coca, eccetera. Dai. No, in linea con la linea. Allora, il signor... no, non, anzi, almeno lui ha una giustificazione, perché dice che prende la coca. Mentre, siccome sono convinto che questi due signori di Radio Padania non fanno, sono così al naturale, cioè la cosa grave è che loro sono così al naturale. Varin e Pellegrin, se sembra due nomi, sei Topolino e Minni. Varin e Pellegrin sono così al naturale. Questa è la cosa grave. Intanto stanno riprendendo lì su Periscope. Allora, Di Pre dice: io non riconosco le leggi dello Stato italiano. Ma quello l'ha già detta noi, amici di Vani di Fer. Sentiamo il Di Pre. Sentiamo il Di Pre e il Di Preismo. Una follia totale. Andrebbe bloccato questo signore. Bloccato immediatamente. Io conoscevo il Priapismo, non il Di Preismo. A me non me ne frega un cazzo, meglio l'Italia di niente. Io sono un capo di religione. Sono un capo di religione. Beh, no? Sei? Di Preismo. Va bene. Ma quale religione? Quale cos'è? Religione? Allora, cos'è sta roba? Allora, ho deciso, ma che cos'è il dipreismo? Che cos'è il dipreismo? È una religione fondata sul sesso, sulla droga e sul denaro liquido. And now the headlines news channel 3. E adesso i titoli del TG3. Serie di attacchi ad Istanbul dopo la morte del magistrato, spari davanti al palazzo della polizia, ucciso una kamikaze, un uomo armato nella sede del partito di Erdogan. Attaccato dall'ISIS il campo profughi palestinese di Yarmouk alle porte di Damasco, gruppi miliziani ne controllano alcune aree, intensi combattimenti. Via libera del Senato alla legge anticorruzione, ora va alla Camera, torna il falso in bilancio per le società non quotate, Renzi finalmente arriva alla stretta. Per la nomina del ministro delle infrastrutture quasi certa la scelta di Del Rio, il pressing di Alfano, Quagliariello, non mi interessa un ministero. L'indignazione di D'Alema, tirato in ballo dai PM nell'inchiesta su Ischia, pur essendone estraneo, tutelare chi non è indagato. Il vicepresidente del CSM pone un problema serio. Giallo su un video forse trovato tra i rottami dell'aereo, girato con un cellulare, mostrerebbe gli ultimi istanti. Lubitz avvertita nella sua depressione. Arrestato a Firenze l'ex compagno di Irene Focardi, uccisa a calci e pugni e poi rinchiusa in un sacco. Contro di lui ci sono gravissimi indizi, ma non confessa. Allora andiamo con qualche ascoltatore, eh? Andiamo bene. A Giuseppe, provincia di Vicenza. Buonasera Giuseppe, buonasera. Buonasera, buonasera Bruciani. Dimmi, vai, dimmi. Volevo intervenire per dare su D'Alema. Se non sbaglio, D'Alema non è la prima volta che si indigna, si incavola per quando viene colto in difetto. Volta che mi sembra proprio la Vespa ha preso male parole, si è arrabbiato per l'affitto che pagava l'affitto da 100 euro, 100.000 lire o 100 euro che pagava sull'appartamento in centro a Roma. Quindi non è vergine a queste situazioni c'entra? E non è nemmeno vergine al fatto di arrabbiarsi quando viene. Ma guardi che anche lì non rubò niente, cioè lei sta dicendo una cosa gravissima. Ma perché fai il difensore? Ma di no, però bisogna, cioè, ma non mi frega niente a me di D'Alema. D'Alema mi negò anche un'intervista, peraltro, se vuoi sapere. Non quindi... ha rubato niente, ha rubato gli italiani, italiani che pagano gli affitti normalmente. Ma d'accordo, e infatti lui viveva come tanti in case a canone agevolato di un ente, come tanti. Poi si è lasciò la casa, il famoso Affittopoli. Ma insomma, quando uno si permette di giudicare gli altri, dovrebbe prima fare autocoscienza, guardare dentro se stesso, e lui non può permettersi di giudicare quando gli va bene e poi quando gli va male prenda. Allora io dico una cosa, questo ascoltatore, ha perfettamente ragione per un motivo, non tanto per le storie passate dell'affitto di D'Alema poi trasformato in un acquisto, non lo rubò nessuno, ma non è questione di furto, è questione di una casta di persone che hanno avuto affitti agevolati e hanno comprato le case a prezzi che certamente non sono prezzi di mercato, ma lasciamo perdere questo argomento. Momento, la casa che comprò poi dopo vuoi stare calmo? Mazzini. Vuoi stare calmo? No, ma è un'informazione sbagliata. Ma non sei l'avvocato di D'Alema. Non sei l'avvocato, ti voglio segnalare che non sei l'avvocato di D'Alema. Allora, la cosa principale che riguarda è incredibile, vuole fare l'avvocato di D'Alema. Il punto fondamentale, mi siedo dalla parte del torto, perché dalla parte della ragione mi pare siete già in tanti. La questione non è la casa di D'Alema, non me ne frega niente. La questione è molto semplice: per una vita D'Alema, al di là del merito, non ci sono indagini, non è indagato. Cosa ha fatto? Per una vita D'Alema e la sua parte politica hanno sfruttato ogni rimasuglio di intercettazione telefonica. E hanno sbagliato. Ogni rimasuglio, non so, tu dici che in realtà non è così. In realtà hanno sbagliato quando lo fecero. Non lo dicevi su Berlusconi. Hanno sfruttato, non lo dicevi, me lo ricordo benissimo. Hanno sfruttato ogni rimasuglio di intercettazione telefonica per attaccare i loro nemici politici. Adesso che D'Alema sia indignato e voglia l'intervento dell'Associazione Nazionale Magistrati e del CSM, perché per una volta, un signore che sicuramente non è un magistrato specchiato dal punto di vista delle indagini, che il signor Woodcock lo mette in mezzo, questa è la cosa che mi fa incazzare di più. Cioè, perché ha scoperto adesso che le intercettazioni possono rovinare le persone. Ma guarda che non è questo il punto. Questo è il punto. Non è il problema. No? Il problema non sono le intercettazioni in sé. Non è l'intercettazione che è sbagliata. Il problema è che se delle intercettazioni finiscono persone che non c'entrano nulla manco con l'inchiesta, allora lì sì c'è un problema. Questo è il tema, non l'intercettazione in sé. Ti vorrei fare presente che spesso tu siete incredibili. No, ma non è che siamo incredibili. I magistrati hanno intercettato i signori delle COP e dunque hanno allegato le intercettazioni con D'Alema o comunque le dove frasi ci sarebbe la frase di un signore indagato che avrebbe detto avrebbe venduto del vino. Sei incredibile. Venduto il vino. No, ma scusami, dice io no, perché poi D'Alema ci serve. Ma perché su Berlusconi e le ragazze non facevi questi ragionamenti? Ma le ragazze alla fine, alcune di queste sono finite pure indagate, ma io sono garantista comunque anche per tutti questi qui. Fammi sentire Augusto da Pisa, sei vergognoso. Augusto da Pisa. Conosco la torre di Pisa. Buongiorno. Vai, dimmi. Allora io intanto volevo dire che io veramente a volte non so se sei d'accordo con Cruciani o con Parenzo. Io oggi pieno d'accordo con Cruciani, grandissimo. Io volevo dire una cosa semplicissima. Allora, praticamente D'Alema non si lamenta del fatto che lui sia finito sui giornali, ma lui è finito sui giornali. Incredibile. Perché i magistrati indagavano sulle COP e hanno scoperto all'interno dei traffici delle COP che hanno venduto anche, hanno comprato dei vini da D'Alema e dei libri, cosa che non è un reato ovviamente. Ma siccome voi della sinistra o comunque di un certo tipo di sinistra avete sempre detto una cosa, queste intercettazioni però servono per capire il contesto. Così si diceva e l'hai detto mille volte anche per capire se esiste un contesto potenzialmente criminale, l'ho capito. Se c'è un contesto potenzialmente criminale. Fammi sentire Augusto. Ma scusami, mi fai sentire Augusto? Non sei l'avvocato di D'Alema? Non sono l'avvocato di D'Alema. Ma io volevo dire anche un'altra cosa. Ma questo qua non è stato in giro per 40 anni, ok? 40 anni, un uomo pubblico per 40 anni. Insomma, se poi alla fine finisci su un'intervista, ma sono indignato io, ma per i 40 anni che ti ho dovuto sopportare. Vedi, questa è la sua valutazione su D'Alema. Vedi. Lui non sopporta D'Alema. Ma vedi il poveretto, ma va benissimo. Uno perché può poveretto? No, non sopporta D'Alema. Aspetta, no, vedi, io sopporto D'Alema perché? Ma questo perché va bene. D'Alema è quello che poi si è scoperto che andava in barca con Berlusconi. Ma perché D'Alema è barca con Berlusconi? Ma è andato in barca con Berlusconi? Ma dice che faceva la bicamerale con Berlusconi. In barca con Berlusconi. Vabbè, lasciamo perdere. Augusto, non è mai andato in barca con Berlusconi. Tu, a te non ti sta simpatico D'Alema. Prima hai fatto un ragionamento sulle intercettazioni che ci poteva stare, ma. Ragazzi, siamo tornati in diretta alla Zanzara 19. Non ho cambiato voce, sono sempre io. Non siamo più su Periscope, però. 19, sei un bambino. Sei come un bambino che per la prima volta ha assaggiato qualcosa e sei schizzato. Non mi diverte troppo. Vai su Periscope, parli. Ma adesso non più, l'ho chiuso la diretta su Periscope. La Zanzara 800240024. Siamo sempre qui negli studi di Roma con Davide Parenzo. Fra poco un ospite. Allora, i signori animalisti, Giuseppe Cruciani, adesso in diretta Radio La Zanzara, che era ieri, il signor Enrico Rizzi. Di un sedicente partito animalista, ha candidamente ammesso di aver assaggiato un cane in Corea per provare. È vero, ho assaggiato un cane in Corea, la carne di cane. Ero per lavoro in Corea durante i mondiali, ormai sono passati diversi anni, quasi 13. Ho assaggiato la carne di cane e mi ha fatto abbastanza schifo, era una carne dolce. L'ho fatto semplicemente, anzi vorrei riproporre quel servizio se lo vado a ribeccare, lo sai, prima o poi? Il servizio che ho fatto per Radio 24 su un ristorante di carne di cane. Ma ti occupavi sempre comunque di cose divisive? No, ero in Corea, volevo fare i classici servizi di costume, come si dice, no? E sono andato col taxi, mi sono fatto portare in un posto dove si mangiava solo carne di cane. Impressionante. Si mangiava seduti. È come mangiare un uomo, praticamente. Beh sì, un po' sì, devo dire la verità. No, una carne dolce. Ma no, ma lascia stare, mi fa schifo quello che dici. Ma concettualmente, ragazzi, l'ho fatto raccontando poi quello che era successo. Non l'ho fatto mai più, non me ne frega niente della carne se di cane. Hai coraggio, scrive Dino Giarrusso, che mi vuole sfidare come lotta Giarrusso. Allora, come prendendo lotta per i fondelli, chi difende gli agnellini? No, io ho detto semplicemente un'altra cosa sull'agnello, che la campagna per stop, no, per fermare l'uccisione degli agnelli per la Pasqua mi sembra una roba un po' assurda. Poi ognuno ha il diritto sia di convincere qualcuno a non mangiare gli agnelli, sia di non mangiarli, sia di non darli da mangiare ai figli, non me ne importa niente. Il punto è che a me piace l'agnello e a Pasqua mangerò tantissimo agnello. Ma il signor Rizzi purtroppo ha pubblicato questa cosa su Facebook. Vi leggo solo qualche commento, ma ve li leggerò tutti. Pezzo di merda, che stronzo, lurido uomo, che schifoso, pieno di sé, narcisista. Di merde una ne ho sentita tante, ma con un essere così abietto, schifoso. Un altro dice che schifo, è proprio una merda. Prova anche il cianuro. È solo un povero infelice, persona orrenda. Un tale Nicola Colombo, voglio dire il nome, colpo alla nuca, brutta merda umana, guardati le spalle. Signor Nicola Colombo, che verrà segnalato all'autorità, alle autorità. Signor Nicola Colombo, colpo alla nuca, no, perché questi qua in alcuni casi sono anche pericolosi, questi signori animalisti, capito? Ci sono dei gruppi che hanno fatto dei raid. Io dico ancora una volta che a Pasqua mangerò l'agnello e non me ne frega nulla di quelli che dicono che mangiare l'agnello è come ucciderlo. Io Pasqua, c'è la Pasqua ebraica. Vogliamo sentire qualche ascoltatore, poi l'ospite, Fabio da Bergamo, vai Fabio. Super ospite, però. Super. Pronto? Sì, Fabio, pronto? Vai. Dimmi. Senti, volevo fare, buonasera a tutti, volevo fare una domanda, sì, a Parenzo riguardo ai, sì, rom, non so se sono, sì, fuori tema. Sì. Non sei mai. I rom sono sempre in tema quando si parla, benissimo, di Lega Nord. Allora, sempre. Volevo dirti una cosa. Sì. Io faccio una premessa che credo di avere, sì, una mentalità newyorkese. Non mi interessa della gente il colore dell'epidermide. Non mi interessa, sì, il credo religioso. Non, bravo, me ne frega niente delle preferenze sessuali. Posso, bravo, fare quello che voglio. Basta che siano bravi cittadini. Bene. Però volevo chiedere una cosa a Parenzo. Sì. Tra i rom, che io cerco sempre di cercare tra i rom e tra i nomadi. I nomadi poi sono gente che mi sono anche simpatici, se sono, sì, brave persone. Sì, però chiedo, sì, Parenzo, lei che li difende sempre, anche giustamente, ma non... conosce un gruppo, sempre, di nomadi, non dico uno, due, tre, brave persone, brava, sì, gente. Poi ci sono in tutte... Io voglio dire, ma le faccia vedere, perché qui la gente è un po' esasperata. Le dico di un fatto di cronaca che è successo qui a Bergamo. Un cretino, perché dico un cretino, dopo aver fatto la sua festa di carnevale ambrosiano, sì, ha preso la pistola... Era prima vestito da vescovo, il cretino, è andato e ha sparato a un camper di rom e ha fatto fuori un padre di famiglia con 12 figli. Sì. Poteva fare una strage, quindi faccio una premessa. Questo qui chi era? Questo che ha sparato? Guarda, chi era? Un bergamasco? Cos'era? Sì, sì, un bergamasco. Ecco, no, mica no, diremo altro... che tutti i bergamaschi sono degli assassini, no? Giusto? No, ma assolutamente. Appunto. E allora, è un matto, appunto. È matto, che si merita l'ergastolo. Però vabbè, ma qual è il punto? Non ho capito lei dove vuole arrivare, scusi. Io voglio arrivare al fatto, chiedo a Parenzo se lui conosce qualche rom onesto, di... diciamo, qualche, esatto, rom onesto. Qualche, certo, rom onesto. Qualche brava persona. Ma io ne conosco diverse associazioni, eccetera, eccetera. A mio parere, l'ho già detto più volte, i campi rom sono una follia, il tasso di criminalità all'interno dei campi rom è altissimo. Dico un'altra cosa. Come se vai a Scampia, no? Ci sono tanti nei modi... quartieri popolari è facile che ci siano dei criminali. No, non è la stessa cosa. Ci sono tanti modi per combattere Scampia. I rom. La notizia più incredibile che ho letto oggi è una che viene da Napoli. Pensate cosa fa la camorra. A un certo punto dei rom vanno a pizzicare, vanno a visitare la casa di un figlio di un capo camorrista. La camorra fa un'indagine. La polizia tra l'altro. No, la camorra fa un'indagine, diciamo, privata. Ma che è il talento Colombo? Non trovano gli autori di questo furto. La camorra, sempre questa. Sempre la camorra. Sì, perché, sai. A un certo punto, questo boss, per vendicarsi, sì, sai cosa fa? No. Ordina l'uccisione di due rom a caso. Due rom a caso. Boss, questo succede. Questo succede a Napoli, due rom a caso. Cioè, tanto comunque, siccome sono ladri e siccome sono rom, diamo una lezione e ammazziamo qualcuno dei campi rom. Allora, abbiamo con noi una persona che è al centro dell'attualità perché è appena andata via dal partito dove è stata per tanti anni insieme al compagno. Si chiama Manuela Repetti ed è una senatrice di Forza Italia, ex di Forza Italia. Buonasera, buonasera. Benvenuta. Buonasera. Grazie. Come sta? Grazie. Beh, insomma, male. Ci sono momenti più gioiosi, ecco. Ha gli occhi lucidi, sì. Quasi, cioè un po', è quasi commossa. No, commossa direi, cioè, troppo, no. Sono magari anche un po', probabilmente gli occhi lucidi ce l'ho sul serio, ma nel senso che sono anche un po' stanca, sono affaticata. Sì. Entriamo un po' troppo per capire il contesto. No, però insomma, se ho gli occhi lucidi non è perché ho pianto, è semplicemente perché sono magari, ripeto, affaticata, certo. Ho passato, insomma, non si dorme così facilmente di notte quando si prendono certe decisioni, questo senz'altro. Allora, vogliamo un po' ricapitolare la situazione. Sì. Lei e il suo è la prima volta che c'è una coppia che insieme, questo è curioso, che insieme lascia un partito, cioè una specie di abbandono di coppia di un partito, perché lei e Sandro Bondi, che siete stati insieme da diversi anni, entrambi, anche Sandro Bondi è al Senato. È successo, scusi professore, anche con Flavio Tosi e la sua compagna. Sì, è vero, hai ragione, però sì, è vero. La senatrice Businella. E ci ha preceduto Businella. Anche di po', Businella. Patrizia Businella. Quindi il bello della Seconda Repubblica è anche questo. Invece è molto, ha fatto bene Parenzo a sottolineare e puntualizzare questo. No, però, non siamo i primi. Però Tosi non è in Parlamento, che c'entra? Nelle famiglie politiche. Nella scelta politica. Ha condizionato, capito, naturalmente, ma non condizionato perché imposto da un legame affettivo, così come non è accaduto a loro, non è accaduto a noi. Evidentemente, se stiamo insieme abbiamo anche sensibilità simili, affinità. Per cui lei dice non sempre abbiamo anche a volte così pensieri diversi, ma insomma su questa situazione eravamo abbastanza, la pensate allo stesso modo, ma voi la pensate quasi sempre allo stesso modo, diciamo la verità. Non è una fatica stare insieme, anzi è una cosa molto, se la dice, ripeti, questo Cruciale non lo può capire perché avendo quello che si chiama tecnicamente cuore di pietra non è vero, allora non è vero. Può capire cos'è questa empatia che si sviluppa nella coppia, che va dal cucinare insieme la pasta fino alla riforma della bicamerale, della giustizia. Sì. No, ma non è questo, non è che non posso capire. Penso che ci sono coppie molto unite anche nella cosa, questo lo posso concepire, anche nella vita politica. Io volevo dire semplicemente che è una novità il fatto che due persone che stanno insieme in Parlamento, entrambe in contemporanea lasciano un partito. Questo sì, anche oggettivamente. Anche perché non ce ne sono tantissime di coppie che si trovano in Parlamento, non siamo l'unica coppia, però che si trovano allo stesso partito, insomma, ecco. Appunto. In un momento poi difficile in cui si compie una scelta particolare, non è che si compie una scelta del genere ogni anno, ogni tot di mesi. Ma è vero che non avete avvertito Berlusconi? Cioè non ci avete parlato? Se lei ricorda bene, visto che ci sono dei telespettatori che ci ascoltano, un mese fa circa, comunque, io avevo scritto una lettera al Corriere in cui avevo annunciato questo passaggio. E poi c'è stato un incontro con il presidente Berlusconi. Tutti e due insieme? Sì, siamo stati tutti e tre insieme. A pranzo? Sì. E dopo si era ricomposto tutto? Diciamo sì, io avevo congelato le mie dimissioni anche sia per il colloquio, era buono il confronto, pranzo, sì, sempre. Perché lì si mangia sempre alla grande, cuoco Michele c'è sempre. In modo semplice ma molto genuino. Le pennette tricolori, tricolore, le pennette tricolore, le pizzette del cuoco Michele. Vabbè, io voglio capire una cosa però. Comunque avevo congelato le dimissioni anche per la situazione difficile che stava vivendo, non solo per quello, anche per il confronto Berlusconi, che c'è stato. Ricordiamo che Berlusconi in quei giorni era in attesa anche della sentenza della Cassazione. Ma insomma, quindi, adesso in questi giorni, quando avete deciso, l'avete avvertito o no? Quindi volevo dire, non è che ci siamo alzati un bel giorno e questo abbiamo fatto. Ma eravate in crisi un po' da tempo, la coppia Bondi Repetti con Forza Italia è in crisi da tempo. Nel mese che è trascorso da quel giorno le cose sono rimaste le stesse, forse sono sotto gli occhi di tutti, sono anche peggiorate dentro Forza Italia e le motivazioni che guerra avevamo, per bande, insomma, divisioni, direi di sì, mi pare che insomma non siano considerazioni mie e del mio compagno, sono sotto gli occhi di tutti, quindi insomma. Ma lei per esempio uno come Totti, no? E che quindi oggi non abbiamo, è vero, chiamato il presidente, ma per il presidente. Ci pareva sarà rimasto male. Non, Berlusconi, no? Non lo so. Dicono che sia rimasto male, che senza nemmeno una telefonata. Una vita con Berlusconi, lei e se Bondi avete passato una telefonata, ce ne andiamo. Perché non l'avete fatta sta telefonata? Ma ci siamo visti quel giorno. Ho capito, però uno dice. Io anche. No, beh, insomma, diciamo che non ho fatto la telefonata il giorno prima, ma ho avuto modo di contattarlo anche prima. Quindi, insomma, le cose sono maturate in questa direzione. Cioè lo sapeva lui, lo sapeva, era consapevole. Secondo me, credo avesse piena consapevolezza. E Brunetta cosa ha detto Brunetta? Andate via, non andate via. No, non l'ho sentito. Oggi ho letto una sua dichiarazione, però comunque molto rispettosa, dicendo gli addii sono sempre tristi. Vabbè, allora Totti, che è il consigliere politico di Berlusconi e che probabilmente sarà il candidato di Liguria. Lei vota in Liguria? No, io voto anche se Novi Ligure, si chiama Ligure, è in provincia Piemonte. Di Alessandria. È in Piemonte. È vero. Totti ha detto prima di Bondi che è vernice vecchia da scrostare, praticamente, sì. come tutte le vernici. Una vecchie. Battuta non elegante. Non anzi. Elegante, No, elegante. Sgradevole, lo definita sgradevole, sì. Per non dire peggio, perché insomma, cioè, però io non mi peggio di sgradevole che c'è? Beh, insomma, no, non lo voglio dire, ci sono altri termini. Cioè, cosa ha pensato quando ha letto questa cosa di Toti? Cioè, ma che ha detto... veramente anche di cattivo gusto. È una dire che Sandro, paragonarlo a vernice vecchia da togliere dai muri per un bel restauro, mi pare una considerazione davvero di basso livello, di basso profilo, che mostra, se mi permette, anche il livello a cui... Cioè, il livello di Toti. Il livello di Toti. In cui si trova Forza Italia e probabilmente la gente comprende ancora meglio, forse è un piccolo passaggio, ma per comprendere anche il nostro... la vostra scelta. Sì. Ecco, ma se lei fosse in Liguria voterebbe per Toti? Diciamo la verità. Pare che si candidi, cioè, mettiamo che lei voti in Liguria, abita a Novi Ligure, però la Liguria non c'entra niente. Lo voterebbe uno come Toti o no? Oppure mai uno come Toti che ha dato della vernice vecchia a Bondi e dice anche oggi che voi vi dovete dimettere dal Parlamento? Ecco, questo è più caro. Al di là dell'offesa personale, la considerazione, perché come elettore dovrei farne una considerazione politica, se lei mi pone la domanda che io se lo votassi o no, beh, comunque una persona che si esprime in questi termini e che non ha rispetto delle persone, ripeto, oltre che della storia di Sandro, che non mi pare che si riduca solo a qualcosa da scrostare, ma credo abbia dato un contributo culturale e politico di spessore, non so se Toti lo saprà dare allo stesso modo. Per cui non ci sono i presupposti per avere stima tale da poter votare come presidente della mia regione. Devo dire la verità, c'è una questione che riguarda Toti che è abbastanza incredibile, perché noi abbiamo sempre rimproverato a tutti, io ho rimproverato la Moretti, ma lo rimprovero adesso anche a Toti, perché le cose vanno dette, il fatto di utilizzare alcune candidature, dei posti come per esempio quello di parlamentare europeo come una sorta di passaggio. Ma questa cosa succede anche per Toti. Io ho accusato la Moretti di essere stata entrambi difendo sia Toti che la Moretti in questo caso, ma anche Toti non mi risulta difficile, perché sono persone che sono state elette con le preferenze, quindi non mandate lì. Ho capito, blindate. Ma tu adesso fai il parlamentare europeo, ma perché ti devi candidare in Liguria? Sei pure toscano, è vero che è nato e cresciuto lì a però confine. I suoi elettori che hanno scritto Toti decideranno se è questo è scontato. Però con le preferenze cambia il meccanismo del gioco, no? Perché è quello cambia tutto, perché è il d'accordo. Vero test. Però è vero, però se non mi è serio, posso dai, permettere... non è serio. Perché non è serio? Anzi, uno si rimette in discussione. Serio, ma penso che derivi anche dal fatto che c'è una sottovalutazione invece del ruolo dell'Europa che tutti oggi invochiamo, che debba essere molto più importante e che però in effetti... viene considerata come un posto di passaggio, lei pure pensa che sia non è bello candidarsi, stare in Parlamento, al Parlamento europeo e poi candidarsi per una regione, o no? Lì non sempre, che dipende dalle situazioni. Sono d'accordo con lei che purtroppo ancora oggi, purtroppo per l'Europa e per la situazione in cui la gente troviamo, considera il Parlamento europeo un luogo di passaggio. Un po' sì. Allora, lei ha parlato in questi giorni di cerchio magico, dell'esistenza, del fatto che intorno a Berlusconi si è affidato troppo ad un cerchio magico. Ecco, ma vogliamo sapere, ma questo cerchio magico da chi è composto? Dudu c'è? Io amo gli animali. Signor Dudu. Non mi dica che è animalista pure lei. È un po'. No, parecchio anche. Parecchio animalista. Assolutamente. Cioè, è vegetariana, sì. Cioè, lei mi considera una specie di assassino. No, vegana no, non mangio carne assolutamente. Pesce? Però qualche crostaceo, perché uova? Le uova sì, perché non andiamo c'è nessuna uccisione. Ma i vegani non mangiano neanche le uova. I vegani no, ma i vegetariani mangiano uova. Certo. Lei va verso il veganesimo, non mi dica. No, io mangio uova, formaggio, l'importante. Però gli animali quando vengono gli animali uccisi, no. No, io non, gli animali, non ci riesco. Dunque, mi considero una, una specie di mostro, una specie di. Beh, ma di, no, non la mostro a prescindere. No, non da la questo, no, questa è carina come battuta. No, no, non la considero un mostro perché mangia carne. Non per questo. Diciamo almeno che le consiglierei di non tornare mai più in quel ristorante. Questo senz'altro. Ma quello dei cani, quello dei cani. Nel ristorante dei cani è una cosa veramente molto brutta. I cani hanno una. Ma quelli sono cani d'allevamento? No, no, no. E guardi, se vogliamo, io sono convinta che se mettessimo anche tanti, tanti esseri umani in allevamento, uno potrebbe dire poi la stessa cosa. Vabbè, è d'accordo con me che mangiare un cane è come mangiare un uomo? Assolutamente sì. No, i cani, però. Ragazzi, non scherziamo. Un momento. Mangiare un cane è come mangiare un uomo. È una. Che il paragone può essere. Pure il signor Bondi mangia poca carne? Sì, ma siete uguali in, non in tutto? No, convertire non è un convertire, è un condividere. È un percorso, sì, l'hanno fatto insieme. Assolutamente. Scusa. Ma ti piacciono questi rapporti ancestrali? Lorenzo, per i rapporti ancestrali tra le persone. No, ma mi piace perché come Giulietta Masina e Fellini, no? Muore Fellini, dopo pochi mesi muore la Giulietta Masina. No, ma non lo sei un bel cretino. Non lo stavo. No, ma per spiegare l'intensità. Speriamo che uno dei due abbia vita lunga, quindi di conseguenza lunghissima anche l'altro. No, qui stavo per dire, era semplicemente per spiegare i fratelli Taviani. Fratelli sono fratelli, ma per spiegare i rapporti complessi, belli, che si creano. Ti piacciono i rapporti ancestrali, molto, di vita e di morte insieme, tutti insieme. Di vita soprattutto, ma in cui mi piace si condividono le stesse cose. Come no? Tu vuoi che tua figlia si sposi per forza con un ebreo? Beh, vabbè, questo è un altro passaggio. Ma no, ma è questo perché necessario, c'era utile e assolutamente. Ma si rende conto, scritto nella pietra. Pensa che sua figlia è ebrea, di religione ebraica, ma no, sia necessario che si sposi con un ebreo. Le persone a te più vicine o che condividono con te un percorso, non e poi, perché... e poi parla della società multiculturale. Ma cosa c'entra? La società multiculturale, però la mia figlia ma è un ebreo. Ma no, per dire che tu devi sposare qualcuno che è più simile a te nella condivisione delle cose. Torniamo al cerchio magico. Chi fa parte di questo cerchio magico? Berlusconi, lei ha detto Berlusconi si fa consigliare male, no? Cioè si fa consigliare male, soprattutto si è affidato troppo a questo cerchio magico. Da chi è composto questo cerchio magico? Ma non ho detto esattamente che come Berlusconi si faccia consigliare male. Ho detto che Berlusconi, attraversando un momento veramente molto difficile della sua vita, questo è comprensibile. Vabbè, d'accordo. Ha di fatto un po' ceduto a chi più anche fisicamente gli stava intorno. E quindi lo stesso Totti, per ricordare il nome, cioè che ha approfittato di Berlusconi, secondo lei, della debolezza di Berlusconi per mettersi lì e, no o no? Ma no, dire sarebbe anche insomma esagerato, approfittato per mettersi lì. No, è lì evidentemente perché anche lo stesso presidente ha piacere che lui sia lì. Questo non è. Però come ha avuto tanti collaboratori anche prima, più o meno validi. Questi qua sono incompetenti invece secondo lei? Questi? No, e il fatto è che nel suo momento di particolare debolezza ha demandato troppo e ha delegato troppo a chi gli stava e vicino, questi qua che sono, senza averne queste persone quell'autorevolezza che naturalmente il presidente invece ha, quel consenso. Non c'è di manco tutti un gli autorevole altri che, manco vabbè, una. Non hanno Totti certo non è autorevole, né l'autorevolezza né il consenso che ha il presidente. Nemmeno da parte la signora Badante, la signora Rossi? Io non mi permetto di definirla badante. No, non ce l'ha nemmeno la signora Rossi il consenso da parte del resto capito del partito. No, non mi pare, se no non ci comunque sarebbero. Ma non lo dico io. Però non ci Totti sarebbero alla fine queste ha fatto una lunga. È stato un autorevole direttore di testata. Certo. La politica la conosce da tantissimi anni perché l'ha raccontata prima e ora fa. Poi ha preso i voti soprattutto. Cioè, la differenza è un po' questa. Cioè, Totti, a differenza di altri, è uno che ha messo la faccia e ha preso i voti. Questo non lo metto in discussione. Ci sono anche persone tanti altri che hanno preso voti. Vi ma infatti ci sono tante. C'è una faida, questo di cui parlavamo prima. Sì. Un conto è avere dei voti e avere anche un proprio ruolo, una propria. Questo io non lo nego. Ma sai che un conto ancora... è gestire in questo momento il partito. Ma sai che io non ho capito perché voi vi siete dimessi? Non credo ne abbia. Non ho capito perché vi siete dimessi, perché la linea politica è sbagliata, perché ci sono troppe faide, perché non avete più un rapporto diretto con Berlusconi, perché adesso i favoriti sono altri. Perché la mia impressione, ma lo dico sul serio, è che prima Bondi e di conseguenza anche lei eravate tra i favoriti di Berlusconi. Io lo dico in maniera molto brutale perché io sono una persona brutale. Certo, voi eravate tra i favoriti di Berlusconi. Adesso Berlusconi si è affidato ad altri, non so perché la sua vita è cambiata, perché aveva le inchieste e gli altri sono Totti e poi tutto il cerchio magico, la signora Pascale, la Rossi, eccetera, e voi siete fuori da questa, diciamo, da questo gruppo di favoriti. E io ho l'impressione che, siccome siete fuori da questo gruppo di favoriti, allora, e non vi ascolta più, mi risponde dopo la pubblicità, e allora voi a un certo punto ve ne siete andati. Le rispondo dopo, ma non è affatto così, e le spiego anche bene logicamente il perché. Allora ragazzi, voglio sentire ascoltatori, Francesco, provincia di Foggia, vai Francesco, vai. Dimmi Francesco. Francesco Saverio da Bari, Saverio. Buonasera. Dimmi, dimmi caro. Buonasera. Allora, intanto volevo dire a Parenzo, ma mi sta bene le difese d'ufficio che lui fa di D'Alema e di altri. Quello che invece non riesco a capire ed è il problema della trasmissione. E questa incapacità di ricordare la storia. I politici con le donne, con le loro segretarie e con altre, diciamo così, addette ai lavori, a letto ci andavano tranquillamente prima dello scandalo Berlusconi. Allora, a me non interessa chi va a letto con chi, ma non mi interessa proprio nulla a me quello. Mica sono un guardaparente, Saverio, Saverio, che cosa vuoi salvare dire? Salvare i politici discriminando Berlusconi rispetto agli altri significa chiudere veramente gli occhi. Come pensare che i politici non siano esattamente come D'Alema, persone che hanno approfittato del loro potere per avere consensi e assolutamente anche grandi vantaggi, significa prenderci per culo. E questo è ingiustificato per una persona che, come te, si considera di sinistra e intellettuale. Perché no, è quello guarda che avete fatto. Per me, lo dico chiaro, scusami, per me Berlusconi, dopo la sentenza, è innocente. Ma che c'entra Berlusconi? Adesso lui... No, perché siccome lui mi dice io sono una persona abbastanza... Parenzo, io mi aspetto da un uomo come te un giudizio che sia molto più severo e critico. Se noi ce la prendiamo con i Rom è semplicemente perché la gente, quella normale, si impatta tutti i giorni e la loro capacità di essere più aggressivi di noi ci rende naturalmente impotenti e incapaci di reagire. Ora, vabbè, ma adesso si sta parlando però, Saverio, Saverio, adesso stiamo... No, sono Cruciani. Stiamo parlando di un'altra cosa però qui, stiamo parlando dell'atteggiamento arrogante di D'Alema che finalmente scopre dopo tanti anni l'esistenza di una cosa, di un problema. Arrogante, è arrabbiato perché l'ha tirato in ballo ingiustamente. Ti rispondo subito su D'Alema. Io sono di Bari, conosco D'Alema dagli anni 70 allora? Vi posso assicurare che il D'Alema arrogante non solo lo era prima, lo è anche ora. Vabbè, e l'arroganza non è un reato. L'altro problema è che lui ha studiato perfettamente quelli che sono i 10 comandamenti della sinistra, come rovinare un suo nemico o come ingraziarsi di 1000 altre opportunità. Vabbè, voi di essere Saverio, grazie, grazie. Dammi Mariella da Siracusa, vai Mariella, vai. Ciao, io forse mi sto inserendo così un po'. Dimmi. Io sono con Parenzo, perché sinceramente non si può avere la doppia morale. Cioè le intercettazioni o non vanno bene bene. No, oppure io però vorrei dire un'altra cosa. Che stamani ho sentito una trasmissione televisiva e dove c'era quel giudice molto bravo, molto serio. Qual è? Adesso scusate, non vorrei dire male. Nordio, il dottor Nordio, procuratore capo di Venezia, che indaga sulle cooperative. Una persona eccezionale. Ha detto che lui usa pochissimo le intercettazioni. Sì, è vero. E che ha detto che le intercettazioni sono uno strumento pazzesco, perché noi di fatto siamo nelle mani di un questurino che sta tutto il giorno a sentire le conversazioni degli altri e che poi decide, chiaramente non solo arbitrariamente, ma forse anche un po' per noia, un po' perché magari in quel momento ci vorrà pensare ad altre cose più allegre possibilmente, e quindi ci sono missis e fasi che magari vengono prese senza considerare l'intonazione, perché posso anche dire voglio ammazzare Parenzo di baci, e che è una cosa ben diversa, giusto? Perché che tu vorresti ammazzare Parenzo di baci? No, di baci no, non lo vorrei, mi fa rabbia, perché no, voglio dire... No, perché la cosa potrebbe essere grave, cioè molto molto grave. No, dire. Ma se tu hai la tendenza, se senti questo bisogno di baciare Parenzo, la cosa è molto grave. Ma non sarà neanche la sola, evidentemente. È una malattia molto molto grave, ti posso assicurare, cara Mariella? Certa età, non va bene. Ma che c'è? Non è che l'intercettazione è seria. Allora, un ultimo giudizio su D'Alema. D'Alema ormai a fine carriera, non conta più, se lo vogliono liquidare, adesso fuori le intercettazioni. Vabbè, ma io non credo a queste, io non credo a questa cosa. C'è un magistrato che sta indagando Woodcock, che è un magistrato che sappiamo che storia ha di esibizionismo giudiziario, a mio parere. Attento. Però bisogna stare attento, perché Woodcock è uno molto facile alle querele. Anche con noi, una volta che abbiamo intervistato un prete, non mi ricordo chi lo attaccava, attenti. Ci ha portato in tribunale, vediamo come andrà a finire. No, vabbè, io non mi voglio beccare una querela da Woodcock. No, ma lei non c'entra, io. Lei non c'entra niente. Io dico semplicemente una cosa e la ripeto a Parenzo: il problema è molto molto semplice. Il signor D'Alema scopre oggi, che non ha mai detto in questo modo, che le intercettazioni possono essere una cosa pericolosa, possono essere un problema. Lo scopre oggi, a mio parere non sono un problema perché sono allegata. Allora si decidesse di non di rendere, ma stai inquadrando di punire male la questione, ma non importa. Invece la inquadri bene te. No, il problema è, vabbè, ne parliamo dopo. È uno solo il problema. Il problema non sono si fa un abuso di intercettazioni, può essere vero. Il problema sono persone che non c'entrano nulla con l'inchiesta da un punto di vista penale. Altre volte D'Alema non ha avuto questa, altre volte D'Alema non ha avuto sbagliato, ma non ho mai parlato. Il disegno di legge di Orlando che non è una città americana ma è il ministro della giustizia, il disegno di legge di Orlando dice esattamente questo, cioè che vanno asteriscate le persone che non c'entrano nulla con l'inchiesta. Asteriscate, abbiamo capito anche la parola asteriscate. Allora voglio chiedere alla signora Repetti innanzitutto l'elenco delle persone che partecipano a questo cerchio magico, perché quando uno nei giornali, come lei ha fatto, dice cerchio magico, poi deve dire da chi è composto il cerchio magico, perché... Beh, ma gliel'ho già detto, intanto la Toti Rossi, questo è chiaro. Toti, poi Rossi. Ruoteranno chi c'è? Bergamini, chi c'è? Ma non soprattutto Toti Rossi. Beh, diciamo, di fatto loro sono, insomma, Toti Rossi comandano Forza Italia in sostanza. Ma non è che comandano, comunque in questo momento hanno gestiscono il partito, di fatto decidono su tutto, su tutti. Lei prima mi ha fatto una domanda e mi diceva influenzano ma non è che per caso... Adesso torniamo subito, e influenzano Berlusconi. Cioè influenzano fortemente Berlusconi, cioè filtrano, se uno ci vuole parlare decidono loro se farci... Lei dice una cosa che sento dire molto in giro, io questo non lo so, ma quello che... Cioè che se uno deve parlare con Berlusconi... si lamentano di non riuscire a parlare con Berlusconi se non passano attraverso il loro benestare, diciamo. E lei dice questa... È una cosa che lei ha menzionato, che anch'io ho sentito molto, non lo posso... Vabbè, lo saprà, ecco, però... Cioè, allora, Berlusconi non ha un cellulare? No. Ah, no? No. No, cioè non ha nessuno, cioè non ha proprio un numero suo, un telefonino, cioè se una persona, se uno vuole parlare con Berlusconi, no? Col cavaliere, chiama il centralino della segreteria, ma avrà un telefonino e poi si passa per la signora Rossi, lì c'è un blocco. No, lei vabbè dice. Non è che si passa sempre per la signora Rossi, diciamo che molti magari hanno queste, dicono di avere queste difficoltà. Queste le ripeto difficoltà. Io non posso cellulare? Dire di avere io avuto queste difficoltà. Beh, comunque io dicevo una cosa prima, sì. Secondo me voi non siete più tra i favoriti ed è esatto, per questo che ben andate. Questo è no, assolutamente non è così, insomma. Sarebbe veramente anche... Vabbè, sarebbe umano, secondo me. Beh, umano, ma non è questo il caso. Perché io parto, guardi, da un dato oggettivo molto chiaro. Prima, quando lei dice magari il mio compagno, che era il coordinatore, o comunque, insomma, quindi avevamo una maggiore vicinanza al presidente, dice, ecco, non c'erano problemi, oggi vi lamentate perché di fatto non è più non lui. È più così. Ecco. Guardi, non mi pare che però prima... questo è un dato oggettivo, ci fossero tutto quello che vediamo oggi, cioè ci fossero Bondi, tutte queste lotte, queste faide, queste correnti, cioè, c'è la corrente dei fitiani, semplicemente quello che ho detto prima, cioè, il presidente c'era? Non voglio neanche dare meriti a Sandro, no quando c'era però intanto Sandro non è una persona né che si impone né semplicemente cercava di svolgere il suo ruolo nel modo più lineare possibile alla volontà del presidente. Comunque, quando c'era lui non c'erano queste divisioni, non c'erano queste divisioni. Questo è un dato oggettivo. Prima non c'erano le divisioni, oggi ci sono. Qualcosa c'è che non va oggi, no? Non sono quindi io. Senta, ma la Pascale conta qualcosa come Toti e la Rossi oppure no? Fa parte del cerchio magico anche lei o no? Ma io so che Francesca Pascale è la compagna del presidente, è legata da un rapporto affettivo, quindi non voglio entrare assolutamente nel giudicare. Non fa parte di questo cerchio magico? No, sì. Non, vabbè, ma non c'è niente rimasto. La stupirebbe se si candidasse all'elezione? La stupirebbe se un domani la Pascale venisse candidata? Nel momento in cui siamo? Cioè, sarebbe anche normale, forse? Ma non lo so, non credo che sia nelle sue ambizioni. Io credo che che sia, sia oggi la compagna dell'ex presidente del Consiglio, non credo. Poi tutto può succedere, io non mi pongo questo... La corrente Dudu, come si può chiamare? No? Lei ha parlato di cosa duduista o no? Cioè, dadaista? No, duduista. Ah, duduista. Cioè, c'è un problema di no o no? No, a me spiace anche quando si sia così utilizzato il duduismo, parlando di questo cagnolino che invece è un cagnolino molto dolce, simpatico e nulla viziato. Senta, ma Renzi è meglio di alcuni esponenti del cerchio magico dal punto di vista politico? Lei lo apprezza di più? Cioè, tra Renzi e Totti, lei chi sceglierebbe? Diciamo, no, tra Renzi e Alfano. Sì, tra signor Renzi e Totti. Oggi è tra Renzi e Alfano, perché Totti non hanno già tra più. Renzi e Totti, tra Renzi e alcuni esponenti del cerchio magico del suo partito, lei chi sceglie? Cioè, tra Renzi e i componenti del cerchio magico di Forza Italia? Sì, certo. Beh, lei, ma se io sono uscita da Forza Italia oggi, sceglie? Certamente per questi problemi Renzi. Non... Ma Renzi è il presidente del Consiglio... Cioè, dovesse scegliere nella scheda elettorale Renzi-Totti, su chi mette la X? Cioè, Renzi e dall'altra parte Totti. Ma non le posso rispondere. Mi sembra... Perché intanto no? Non credo che ci sia mai, guardi, posso dire... Non ho visto mai. Io invece penso che non avrò mai questo cioè, dubbio di dover scegliere tra Renzi e Totti. Perché Renzi ha un livello troppo alto, diciamo rispetto a Totti. Le devo rispondere sinceramente, sì. Credo che Totti non abbia comunque le capacità, non si possa fare un paragone tra Renzi e Totti, sia politiche che di comunicazione. Capito, Parenzo? Renzi Alfano? Ma no, ma che c'entra Renzi? Ora no, mi sorrido perché mi sembra insomma una... Renzi Alfano. Sì, allora, Totti, quasi una... Esclude di entrare nel movimento NCD, si chiama. Sì, no. Mai, noi, con Alfano mai. Ma non è il mai, non rientra proprio nella più pallida idea, ecco, senta, in questo momento di entrare in nessun Totti altro dice, partito. E poi chiudiamo, Totti dice vi dovete dimettere. La risposta qual è? Non ci dimetteremo. Dimettere, noi ci siamo dimessi da Forza Italia, dimettere dai senatori mi è sembrata anche questa una battuta davvero di bassissimo livello e purtroppo qualcuno ho visto anche dalle così qualche vabbè, quello è normale, siccome non siete più in Forza Italia come tanti altri parlamentari vorrei però un attimo, appunto ha detto già bene, c'è già un punto questo, ricordare a Totti che quando ben 60 e passa parlamentari di Forza Italia sono andati via formando un altro gruppo in un momento molto difficile del presidente perché stava per essere stromesso dal Parlamento. Totti parlava anche degli altri che sono usciti, non solo lui però non ha mai detto che dovevano dimettersi da senatori, non ha mai fatto queste considerazioni. Altro punto, io sono pienamente convinta invece di essere assolutamente coerente con il fatto di uscire, intanto perché vado al gruppo misto. Lei è stata vicina a Berlusconi, è in Parlamento grazie a Berlusconi e adesso sostanzialmente lascia Berlusconi. Questa è la realtà dei fatti. Ma guardi, lei pensa davvero che io oggi lascio Berlusconi? Lascio Forza Italia. Che è Berlusconi, praticamente. Che è Berlusconi. Forza Italia in queste condizioni, Forza Italia in queste condizioni non era più il partito, non soltanto, le ripeto, ma per le faide qualcosa, e per la disorganizzazione, per tutto quello che sta succedendo. E noi non volevamo partecipare a queste faide interne che fanno male anche a Berlusconi. Ma decide ancora qualcosa Berlusconi oppure no, secondo lei? Mi dica la verità. Se vuole sì. La domanda, se mai è reale, non so se in questo momento ha la volontà di voler... Pensa solo al Rubiter, dai. No, pensa solo al questo l'ho letto anch'io oggi. Pensa solo che a quel qualcuno processo. Dice, pensa solo... No, è chiaro che Berlusconi ha dovuto pensare molto alle sue questioni e questo, per questo va capito. Senta, posso anche fare una domanda? Ma cosa ci trova di grande... Però mi lasci anche dire che Forza Italia, quando si dice io me ne vado da Forza... Quale Forza? Cosa è rimasto di Forza Italia? E Forza Italia è diventato anche un partito molto più conservatore di quanto... Non è più il partito liberale che si era... Comunque è finito ormai questa storia. Diciamo la verità, è tutto finito. No. Che la storia di Forza Italia sia finita. Non lo so, certamente il futuro non mi sembra roseo. Poi... Grazie, a presto. Grazie. Ok, ragazzi, andiamo. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglioni. Lo so. Pino, provincia di Reggio Emilia, vai, Pino. Dimmi, Pino. Ciao, ragazzi. Dimmi, vai. Posso esprimere la mia opinione per quanto riguarda i vini di D'Alema e Lidl? Sì, vai, no. Dimmi. Per me è una grossa operazione di marketing. Cioè? Cioè, chi è che conduce l'inchiesta? Woodcock. Appunto. Allora, appunto, si risolve nel nulla. E rimane la pubblicità. No, avete scomodato Vistani, avete, cioè, state parlando non di non mi pare una gran D'Alema. Pubblicità però per D'Alema, francamente, mi pare anzi no, un no, bel quello la pubblicità no, non credo, no, no, la pubblicità. No, a me non me ne frega niente di D'Alema. Ma pubblicità di che tipo? Non ho capito la pubblicità di chi? Pubblicità, chi? Pubblicità. Ma chi ci guadagna? Ma chi è che comprava i vini di D'Alema, primo, o i libri? Ma c'aveva un bel mercato, un bel mercato. Ma chi? Non c'aveva. Ma dove? Bah, ma dove? Bah, insomma, lei che, mese, insomma, Aro non mese, conosceva andrà, i vini di D'Alema, ma... Andrà sul gambero rosso, capito? Vabbè, Pino, dunque, secondo te è stata una grande operazione di marketing. Una grande certo, operazione di marketing. Certo. Benissimo, grazie. Mirko da Treviso. Mirko, vai. Non c'è? Andiamo a Giuseppe, provincia di Bergamo. Sì, buonasera. Giuseppe, vai, dimmi. C'è ancora l'onorevole Rapetti, spero. No, no, vai. Repetti. Non c'è, dimmi, vai. Repetti, sì. Siccome io sto lavorando ancora da stamattina alle 5, sono un po' stanchino e vi sento un po' spizzichi e bocconi, non posso ascoltarvi in modo... forse non ho capito bene, perché lei non ha dormito la notte perché ha lasciato il partito di Berlusconi, giusto? Così ha detto più beh, o meno, sì. Normale, così ha detto. È un dramma. Sì. Quello, ecco, no? Io vorrei capire bene però. Qualcuno mi deve spiegare che cosa farà adesso l'onorevole Repetti? Nel gruppo misto, andrà nel gruppo misto. Al gruppo misto, allora? Gruppo misto. Ah, cioè, sì. Questi saltano da un posto all'altro tranquillamente, prendendosi tranquillamente sempre gli stessi oneri, sempre gli stessi diritti. Beh, ma non è che va in un posto fortunato. Ma che deve fare? Non è che va a prendere incarichi, ma adesso su questo bisogna anche ridimensionare le cose. Hanno deciso che non erano più in sintonia con quel partito e si iscrivono al gruppo misto. Non è che riceveranno allora incarichi, questo. L'ascoltatore vuole dire un'altra cosa. A casa, perché lei è stata eletta per una certa ideologia politica e per rispetto di chi l'ha eletta se ne deve andare a casa. E oltretutto lei sta dicendo che chiunque cambia gruppo politico vuole cambiare gruppo politico, ce ne sono stati tanti, 235, un po' troppi in questa legislatura, devo dire. Chiunque vuole cambiare gruppo politico in cui è stato eletto deve dimettersi. Se tu vuoi cambiare gruppo politico, ti devi dimettere, non prendere più lo stipendio, eccetera, eccetera. Ma assolutamente. C'è una cosa che si chiama senza vincolo di mandato. Però la vorrei tranquillizzare. Che riguardo alla sua importanza politica è un po' come un cartellone pubblicitario, ci mette un'altra carta sopra, lei non conta più niente, conta chi l'altro manifesto che gli viene appiccicato sopra, quindi lei veramente non conta niente, è lì per prendere soldi, soltanto soldi, e portare a casa i suoi diritti, quindi almeno abbia il buon senso di rispettare chi l'ha eletta. Non sono più d'accordo con chi ha rappresentato la mia ideologia politica fino ad ora, me ne vado a casa. Però io me devo dire una cosa, Giuseppe, tra l'altro, scusi. No, ma io devo, ti voglio dare ragione, perché Parenzo, a un certo punto la voce della gente che sostiene una cosa molto semplice, siccome gente. In altri paesi, ma siccome la voce della vabbè, a te gente. Non te ne frega niente perché fai parte della casta. Ma quale casta? Ma la voce della gente, di quattro persone, come sarà amico, cosa vuol dire la voce della gente? Che ma la gente quattro dice persone, ma non fai lo snob così. Ma la gente dice modo. Tante minchiate, non è che la gente ha ragione, no, perché è la gente, la voce tutti, della Grillo diceva la gente. No, ha deciso il web. Ma che cazzo ha deciso? Cosa vuol dire? No, David, c'è una cosa molto semplice, molto chiara che va detta. Le persone sanno benissimo che si resta in Parlamento spesso per un unico motivo, che è quello di prendere lo stipendio. Allora Giuseppe sostiene che i cambi di casacca sono talmente elevati, 234 in questa legislatura, che bisogna porre un freno a questa cosa. Ma sta alla cosa di alla persona, no? Scegliere. D'accordo. Fino a quando non c'è una legge, starà la sensibilità della persona a dire ok, mi dimetto. Ma non è che si può imporre, visto che la legge non lo dice, non è, starà la sensibilità delle persone dire ok, ho cambiato. Io voglio dare ragione a Giuseppe che dice 234 persone in Italia, c'è la moda di essere eletti con un partito e poi fottersene di questa cosa qua, cambiare casacca e rimanere in Parlamento. E dice giustamente Giuseppe, bisogna porre un freno a questa cosa. Allora si faccia una legge in cui si dice che se uno cambia, si tolga il senza vincolo di mandato, sei obbligato a dimetterti fino Giuseppe, a quando non tu c'è... che dici, Giuseppe? Sì, no, stavo dicendo che io vado oltre, nel senso mi dispiacerebbe che l'onorevole Repetti rimanga a casa senza uno stipendio, perché poverina non si sa come potrebbe tirare avanti. Ma no, ma c'è un nella lavoro. Mia azienda c'è posto per chi vuole fare delle consegne, perché io domani sono molto preso. Se viene da me io le do 80 euro al giorno, guardi, tranquillamente, se vuole, anche in nero se vuole, guardi. Grazie, Luca da Roma. Luca. Pronto. Ciao ragazzi. Dimmi. Io invece volevo parlare bene dell'onorevole, della senatrice, se non ho capito male, vero? Sì, sì, dimmi. No, perché ha detto una cosa che io condivido tantissimo. Premetto che... Cioè, che mangiare i cani è come mangiare gli uomini. Sì, assolutamente. Sapete perché? C'è un'ipotesi di un evoluzionista... Ma ragazzi, non diciamo cazzate. Non è la stessa cosa, dai. No, no, no, fa impressione. Non è la stessa cosa. Mangiare i cani non è come mangiare gli uomini. Per me sì. No, va bene. No, forse è esagerata come frase. Però ti volevo soltanto dire questo. Mentre sugli agnelli ti posso anche dare delle ottime ricette, anche sui capretti. Il cane, secondo questo evoluzionista, al cane l'uomo ha delegato l'uso dell'olfatto. E questo sarebbe stato, secondo questa teoria, uno dei motivi per cui l'uomo si è evoluto. Ragazzi, ma non è la stessa cosa, non diciamo cazzate, dai, su, non è la... Ma non ho detto che è la stessa cosa, te l'ho detto, forse... Guarda, il cane... No, ma bisogna andare oltre, perché il cane capisce tutto. Tutto sì. Capisce, primo, quindi è tra gli animali quello che capisce di più. Non capisco, Luca. Primo, ha occhi, ha gambe, ha naso, ha bocca, ha cervello, però. Ha cervello, risponde agli cioè ha la sensazione della paura il cane, cioè il cane si capisce quando ha paura, come è come no, questo tutti gli animali, si capisce però, quando ama. Allora Luca. E allora, caro Bruciani, se vuoi delle ricette sul capretto, sull'agnello, eccetera, io sono un asso, anche perché sono in realtà sono sardo, quindi ti posso invitare anche a tutte le feste di Pasqua, dove da noi insomma la cucina su queste cose è fantastica. Il cane sembra che si sia evoluto assieme all'uomo, io ho qualche resistenza, non so come dire, ce l'ho anche sul cavallo, a dire la verità. Siamo cresciuti assieme, esseri umani e cani, è difficile, secondo me... non considerare questa cosa. Per il resto io rispetto, va come bene. Dire, le opinioni. Diego di... da Genova, vai Diego. Oh, eccoci, buonasera, finalmente. Dimmi. Sono nel frattempo, dimmi. Sono arrivato al dolce. Dimmi, dimmi. Senti, perché non avete dato risalto, almeno fino adesso, a quello sì. Che sta succedendo nella regione Liguria? In particolare su che cosa? In particolare su allora, cosa? I consiglieri regionali della regione sì. Liguria dal 29 marzo scorso sì. Di fatto hanno terminato il loro incarico. Sì, assolutamente. Tu sai che rimangono in carica. Assolutamente, no, quello riguarda anche altre regioni, non solo. Sì, non solo la regione Liguria, certo. Ma adesso, ora in Liguria le elezioni per la regione saranno il 31 maggio. Sì, sì. Quindi, per il principio della prorogatio, scusa, è mio figlio che sono a casa. Figlio, per sì, il principio sì. Della prorogatio e della vacatio, questi signori sì. Andranno in regione a non fare nulla, percepiranno lo stipendio fino. Sì. Al completamento delle elezioni. È vero, ma è la normale. Colpa lo sai di chi è, Diego, di questo scandalo? No, so, perché no, effettivamente so, è uno no, scandalo. So. Perché so. Alla regione Liguria, come scusa, in altre regioni, cosa Luca, succede? Per favore, papà, al telefono con Radio 24, fai il bravo, Scusa, mio figlio. No, ma digli un attimo, Diego, ti puoi dire a tuo figlio una cosa? Scusami, dimmi, Luca. Dimmi. Il papà è al telefono con la Zara. Ti passo un attimo Cruciani. Luca? Cruciani. È arrivato anche Pietro, adesso. Quanti anni hai, Luca? Quanti anni hai? Luca, di un po' Cruciani, quanti anni hai? Pietro, quanti anni hai? Pietro. Zanzara. La zanzara. Di la zanzara. Non Zara, zanzara. Ma lei no, è bellissima. Ma l'altro figlio, quello più grande. Quello dice se lavori nella televisione, non sa che sei in radio, perché poverini. Dica Parenzo, Parenzo. No, che Parenzo? Parenzo, di Parenzo, Parenzo. No, sì, Parenzo. Beh, certo, c'è consenso Parenzo, tra i minori. Parenzo. Va bene, Diego. Va bene, vi abbraccio. Comunque, viva l'Italia, viva no. L'Italia, viva la prorogatio, viva la vacatio. Siamo proprio in un sistema. Sì, non si sente più niente. Allora, la questione è molto semplice. No, è che la legislatura in Liguria scade alla fine di marzo. E siccome ancora non si sa quando faranno le elezioni, probabilmente il 31 maggio, non ci sono più commissioni, non c'è più aula, eccetera. Continuano, diciamo, i lavori, ma al minimo, ridotti al minimo. Nonostante questo, i consiglieri regionali continueranno a prendere lo stipendio pieno come consigliere regionale, pur non facendo una bene amata mazza. Questo è il punto. Ci sono delle persone come Diego da Genova che quando leggono queste notizie qua si incazzano. Perché come in tutti i lavori, se scade una legislatura, se scade una legislatura, tu vieni pagato fino al termine di questa legislatura, non puoi essere pagato oltre, perché non si sa quando saranno le elezioni. Poi uno parla di sprechi, no, di risparmi, eccetera. Anche questo è uno spreco. Giovanni da Roma, vai Giovanni. Ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Cruciani, ma quando è che ti decidi ad asfaltare quell'ipocrita garantista de Parenzo? Stasera prima con la storia di D'Alema, sì, poi certo, con quell'altra storia della senatrice che cambia casacca. Ma tant'è che dobbiamo sempre stare a sentire questo perbenismo. Ma qual, cosa vuol dire perbenismo? Corretto. Ma cos'è? Lo fai parlare o no? Ma non è possibile. Ma non è possibile. Ma cos'è sempre politicamente corretto? Ma cosa vuol dire politicamente corretto? Anzi, sono l'unico a prendermi le pietre, perché in una giornata come questa ho detto che la tesi che ho provato a sostenere e che convintamente sostengo, per cui mi arrivano le pietre, perché Cruciani liscia il pelo a voi, dimmi, che chiamate, dimmi, a questi buoi che vengono liberati dalle gabbie. Perché lo chiami in questo modo? Cosa, perché mi insulti? Questo muflone che viene liberato dalla gabbia perché e viene liberato da Cruciani. Ma non è muflone? Ma la cosa è molto semplice, non ha a che fare, non ha, sì, certo, rivolta ad una persona è un insulto. Muflone. No, ma lascia perdere, non mi interessa, puoi anche insultare tutti. Il problema è molto semplice, mi sono rotto le scatole, mi sono rotto i coglioni di ripeterlo fino all'infinito. Il signor D'Alema, che parla di assurdità delle intercettazioni telefoniche e del fatto che è stato criminalizzato, che è stato trattato male, e la stampa, e le intercettazioni uscite, una vergogna, il CSM, è scandaloso, puramente. D'Alema, come molti altri, ha posto un problema, ma che è quello. Ma non dire. È estraneo a tutto il tipo, alle inchieste. Fai parlare non Giovanni. Non c'entra nulla con la vicenda. Mi dispiace, lo doveva dire molto prima. Giovanni. Cruciani, 10 giorni fa sulla vicenda Lupi, Parenzo sì, diceva esattamente il contrario. Non poi ha anche detto, ma io non sono come Lupi. Fammi dire una cosa. Ma vedi come si In tutte queste circostanze si dimentica una cosa fondamentale, che l'etica vieta molte più cose del codice penale. Ma che c'entra l'etica, allora, con i vini? E ma quindi ripararsi sempre dietro al codice penale non è indagato e tutta questa serie di cose, per le persone per bene e normali vale l'etica, non il codice penale. Allora, a mio parere ha ragione l'ascoltatore. D'Alema, perché forse molti non lo ricordano, non è neanche in Parlamento. Non dice di essere pensionato, ma no, non è in Parlamento. Non c'entra niente, D'Alema. Si fa politica anche senza essere in Parlamento. Certo, allora, la cosa fondamentale è questa: io fossi D'Alema non mi farei comprare i vini e i libri da una cooperativa che successivamente ha rapporti di affari con tutto il mondo del Partito Democratico. Sapeva, punto. Scusa. Come che ne sapeva? Che non sa che le cooperative hanno rapporti di affari. Ma se ti chiedono il vino, se tu fai produttore di vino e ti chiedono il vino, non lo vendi. Ma, sì, ma perché? Ma veramente questo, credi davvero questo? Sì, assolutamente. Posso dire che il fatto che il Presidente del Consiglio Renzi utilizzi un telefonino non messo a disposizione dallo Stato, dai servizi, per carità, si risparmierà sicuramente, ma un telefonino messo a disposizione di una fondazione privata che si chiama Open, creata da lui e dal signor Carrai, che non ha nemmeno tutti i finanziatori trasparenti, diciamo, conosciuti, non perché siano occulti o siano dei personaggi, come dire, di dubbia moralità. È un po' strano, eh? È un po' strano. Si faccia. Capito. Dovrebbe usare un telefonino. Il Presidente del Consiglio deve usare un telefonino messo a disposizione dei servizi segreti. Quindi criptato, dici. Ma non lo so, qualsiasi tipo di. No, non è quello. È abbastanza strano. Voglio capire la polemica. No, non c'è nessuna polemica. Dico che è strano il fatto che il Presidente del Consiglio utilizzi un telefonino che è messo a disposizione o che è pagato da una società privata, che è una fondazione privata, che è questa fondazione Open, creata anche dal signor Carrai. Cioè, persone che però l'hanno sostenuto in campagna elettorale. Sì. Dico che è strano, no? Non credo che Blair utilizzava il telefonino e pagato da un privato, da una fondazione privata. Uno è Presidente del Consiglio, secondo me il Presidente del Consiglio non dovrebbe avere il telefonino, a mio parere. Secondo me non dovrebbe possedere il telefonino. No, io sono nell'era in cui è come Presidente col piccione viaggiatore non comunica. Deve possedere il telefonino. Ma che Obama non ha il telefonino? Secondo me non ce l'ha. secondo me non ha il telefonino. Non ha il telefonino, non usa quotidianamente il telefonino. Cioè il presidente del Consiglio deve utilizzare i mezzi tecnologici certamente, ma, allora, non, ma secondo me è sbagliato che abbia un telefonino privato. Telefonino? Perché nel periodo in cui è presidente del Consiglio e come sono parla con la moglie, con i figli? Altri, sono altri. Ma scusa, ma se lo chiama la moglie, no. Agnese, dice Agnese, dopo sulla pasta. Ci sono mille modi, utilizzi il telefonino del tuo collaboratore, utilizzi il telefonino della tua guardia. Ti pare che ogni volta che vuol parlare con sua moglie per i fattacci suoi debba passare attraverso il telefonino del signor Sensi, ad esempio? Ma perché? Secondo me un presidente del Consiglio deve avere un telefonino assolutamente, non deve assolutamente utilizzare il telefonino. Questo, un suo telefonino, non utilizzare il telefonino. Ma abbiamo con noi Paolo Crepè, buonasera, buonasera. Molto bene. Paolo? Mi senti? Non mi sente. Luca da Londra, vai Luca. Ciao, ciao ragazzi. Sì, dimmi. Vorrei parlare di politiche monetarie espansive. Cioè in che senso? Non lo so, vorrei aprire una discussione o perché sono arrivato un po' tardi, non so se magari ne avete già parlato, in quel caso allora cambierei argomento. Dimmi, parla un po' più forte Luca perché allora, ti sentiamo lontano, se no dai. A questo punto allora vorrei parlare di Squirt. Di? Squirt. Luca! Ma chi è? Sì, sì. Di cosa vuoi parlare? Di cosa vuoi parlare? Vorrei parlare di Squirt. Di Squirt, in di che senso? Scusa, non ho capito. Di Squirt, non di Squirt. Ma cos'è Squirt? Lo Squirt, sai cos'è lo Squirt? Come? No. Lo ma squirting. Parenzo non lo sa. Non lo sai cos'è lo Squirt? Quark, ad esempio, che è un programma. Tu non sai cos'è lo Squirting. No. Cioè, non sai cos'è lo Squirt. Incredibile, dictu. Parenzo non sa cos'è lo Squirting. Cos'è lo? Squirting. Ma no, io so ad esempio cos'è il quantitative easing, che riguarda anche una discussione che qui c'è stata sul quantitative easing. No, non c'è mai stata, per fortuna. Beh no, qui questa radio però ne discutono. Sì, o discutono tanto. Di quest'altra questione lo che io squirting. Non so. Di cosa vuoi parlare? Secondo te discutono da Barisoni di questo, di che di cosa? Squirting, di... No, di squirting no. Cos'è? Io non ne ho idea. Cosa vuoi dire Luca sullo squirting? Esatto. Vorrei approfondire, prendo una discussione tra tutti gli ascoltatori della Zanzara sul sapore. Di cosa no, dell'eiaculazione femminile. Coreana. Sì, hai conosciuto una ragazza coreana e allora scemo. Poiché diciamo che la mia passione è quella di eiaculare sul volto delle ragazze. Mamma quella mia, lei si è voluta vendicare. Ma lei è un maiale. Ma che chiama per dire, ma ha sbagliato. Ma chi voleva telefonare? A chi voleva chiamare, scusi? No, però scusa con Luca. Chi voleva parlare Barisoni, mamma. Ma questa è Radio volevo 24, non è Radio Erotica. Oh! Vabbè, allora Luca, la tua passione è quella, l'abbiamo capito. E allora lei si voleva vendicare questa ragazza coreana? Esatto, che si è vendicata, diciamo, squirtandomi in faccia. Non ho capito, scusa. Si è vendicata della mia passione squirtandomi in faccia. Ecco, io volevo capire una cosa. Per quale motivo, Luca, tu chiami qui per raccontarci questa cosa? Va benissimo le esperienze personali. Vorrei aprire la discussione tra gli ascoltatori Zanzara sul sapore, se a loro piace. A me personalmente, dopo averlo provato, devo dire che è una cosa abbastanza ripugnante. Ecco. Vorrei ripugnante. Sapere un po' come la pensa gli ascoltatori della Zanzara. Intellettuali che... Della Zanzara, esatto. Se il sapore dello squirting... È anche lei che è il nostro mentore, diciamo. Beh, devo posso dire la che questo mi è un maiale o no? Mi esprimerò ma nei prossimi giorni. Si può dire che è un maiale questo qui? Ma perché è un maiale? È uno che ha voluto esprimere la perché sua... Perché è un porco, un maiale. Non saprei come... Vabbè, Luca, io non ho capito. Ma a Londra questa pratica viene l'hai riscontrata spesso oppure no? No, devo dire che questa è la prima volta che mi capita, perché è una cosa molto difficile da ottenere. Io non sono in grado di ottenere questo risultato con una donna, ma l'ha ottenuto, diciamo, da sola. L'ha ottenuto da sola. Ho scoperto tramite una ricerca personale, riesce ad ottenerlo tramite autostimolazione, ecco. Ho capito. Luca da Londra, Olindo da Venezia. Caro Olindo, dimmi. Ma c'è certa gente in giro. Ciao, buonasera, mi senti? Sì, dimmi Olindo, dimmi, signor Olindo, siete signor Olindo, sentiamo, vai, dimmi. Olindo adesso. Sì, dai, sono un camionista qui, non sono di Venezia, ma sono a Venezia. Grande, dimmi. Niente, io guardo, ho chiamato per fare solo un raffronto di voi due, guarda. Io voglio dire che Parenzo lo raffiguro in un faccia da culo da cane da caccia, dato che questa sera avete trattato anche il tema dei cani, è un faccia da culo da cane da caccia. Un intellettuale. Mentre invece lei, signor Giuseppe, sì. Salvando sua madre, perché so che sempre, sarai di una madre sempre onorabilissima, è un figlio di tre puttane. Io la trasmissione, ma perché, scusi, intellettuale della Magna Grecia, ma perché un figlio di tre puttane, spiegami perché, proprio di tre, perché sei forte, riesci proprio per lui, un complimento, capito, a capovolgere la gente, mentre invece, cioè, per questo professore darti del figlio di tre puttane, sì, è un complimento per questo qui, capito? Questo ti spiego, sì, già, sì, guarda, il livello. Ma io sono convinto che Cruciani l'accetta, tu invece capovolgi sempre tutto, difendi sempre tutto, sei un buonista e alla fin fine sei, sì, il marcio della trasmissione, cioè invochi tutto ciò che è il male, mentre invece Cruciani nella sua, sì, colta pazzia riesce, sì, a condividere le cose della gente. Io condividere le cose della gente. Cose, caro Lindo, ti abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Allora, siamo con Paolo Crepese, ci sente Paolo? Buonasera. Ciao Paolo, come stai? Molto bene. Senti, ti voglio chiedere una cosa, tu sei uno psichiatra, eccetera, in questi giorni abbiamo parlato moltissimo, anche qui alla Zanzara, ospite Rocco Siffredi, di problemi che riguardano la dipendenza da sesso, no? Tu hai incontrato nella tua carriera, nella tua vita professionale, persone che si sono rivolte a te per il fatto che sono ossessionate dal sesso, di non poterne fare a meno, questa patologia, sì o no? Sì, è capitato qualche volta. Anche di persone che avevano dei partner ossessionati e non sapevano come liberarsi. Addirittura? Eh beh, sì, sai, capita. Sono problemi. Ma tu ci credi a questa cosa di Rocco Siffredi? No, non ci credi. No, nel senso che le dipendenze vere sono altre cose. Ah sì, ma capite, sì, sono stati casi anche molto noti. Sì, Michael Douglas. Esatto. Ma tu non mi sembra che... Degli psichiatri che aprono la casa di cura per farci un po' di soldi, inventandosi delle nuove diagnosi, questa è una vecchia storia. Non credo, anche perché quale sarebbe il documento di tutto questo, perché dipendere dall'alcol ti spacca il fegato, dipendere dal fumo ti spacca i polmoni, dipendere da che cosa spacca? Cioè dipendere nel caso degli uomini, dipendere dalla figlia, dalle donne, diciamo. Cosa succede? Dal sesso femminile succede che, ne so, che ti rovini la salute, che ti masturbi come un pazzo. Sono persone sole che non hanno un'alternativa, che non si sono creati un'alternativa. Adesso Rocco Siffredi non lo so, non lo conosco. Però tu dici non è uno va all'isola e risolve i problemi. Beh, no. Cioè, ti sembra una grande operazione? Se fossero così semplici, ci sarebbero milioni di persone che andrebbero in questo isolotto falso, perché poi è tutto falso. Quindi non ci credo neanche all'isola. Chi è che ci creda all'isola? Pieno di cameraman, di cose. Cioè, è una fiction. Quindi, sì, ma magari quella condizione lo ha fatto riflettere e lo ha fatto cambiare. Ma o non no? ci crede molto, no. Professor Crepè, a questo. Ma no, ma cos'è sulla via di Damasco? Cioè, era la sua professione. Certo che non la potrà fare a 80 anni. Quindi ci sarà una malinconia ingravescente, mettiamola così, perché invecchiando che cosa farà il signore? Se non ha creato qualche cosa, cioè tu dici è l'invecchiamento, non c'entra niente l'ossessione per il sesso, la malattia, la dipendenza. Beh, penso che stia smettendo come tutte le persone, anche gli operai quando smettevano di andare in fabbrica avevano malinconia di andare in fabbrica. Quindi il signor Siffredi sta andando in pensione, quindi sì, sarà malinconico. Cioè, secondo te la dipendenza da sesso poi in realtà non esiste? Ma no, non capisco cosa voglia dire poi. Significa, no? Un'ossessione, persone che non ne possono fare a meno, che devono andare con tantissima gente. Allora, l'erotomane è un'altra cosa, è una categoria psicopatologica, ma è tutta un'altra cosa. Adesso c'è bisogno di entrare nei un dettagli. Po' non è la stessa cosa, è più o meno no. La stessa cosa, no? No, no, no. Non è la no. Stessa cosa, perché almeno così come la mi pare che me la state no, Siffredi ha raccontato, cioè... anche da noi, che lui proprio non poteva fare a meno, andava con chiunque, brutte, belle, situazioni schifose, continuamente cercando nelle chat, cioè è una ricerca continua del sesso con chiunque, questo è il punto. Beh, perché è una persona insicura. Cioè, tu dici, non c'è una patologia che riguarda il no, sesso? No, è una persona fortemente insicura che ha bisogno, attraverso la donna, quindi la sessualità con la donna, di cercare qualche cosa che non ha. E dipende non dalle donne, questa è la cosa diversa, probabilmente. Non dipende dalle donne, non dipende dalla sessualità con le donne, dipende dall'accettazione. Lui comunque... è stato sempre la persona che è stata accettata, cercata, voluta dalle donne. E l'idea di non poterlo più essere, evidentemente, è una persona che non sa stare con se stessi. Beh, non poterlo più è un essere. Bel quadro clinico, però, mi pare. Vabbè, comunque tu non credi a tutta questa buffonata, vado all'isola così guarisco. Ma va là. No, tutte no, cose... Non credo a nulla di tutte quelle cose, sono agnostico. Quindi non credo a nulla di tutto quello che accade da quelle parti lì. Capisco che è tutta una bella fiction, che serve a qualcuno per farsi beh, un po' a me di ieri pubblicità. È sembrato... Non sto parlando del signor Siffredi. Beh, no, però io sono partito da quello, perché quando è venuto da noi 2 giorni fa mi sembrava sincero. Cioè, io sono andato all'isola, sono guarito dopo 2 mesi, non mi si rizza più praticamente, è morto, e va bene così, mia moglie è la salvezza, prima ero un drogato di sesso, adesso l'isola mi ha guarito. Questo è quello che ci ha detto. Siamo contenti per lui. Però tu sei molto resti molto scettico. Io sono un po' cinico blu come te, quindi ciao Paolo, entrambi grazie. Due scettici. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Saluti. Allora, dove andiamo? Andiamo a Sergio Napoli, vai. Sergio. Sì, salve, buonasera. Volevo intervenire sulla Repetti e su Bono. Dimmi. Finalmente se ne sono andati. Io sono un ex sportista, sempre ammirato per Berlusconi, ma di queste persone non abbiamo mai saputo cosa facciano. Adesso che hanno capito che alzare la mano non serve più, hanno deciso di andare via, perché sanno che non saranno ricandidati, che hanno ricevuto la lettera di strada. Cioè tu alla fine dici, a parte che chi sarà ricandidato non si sa, perché insomma se ma io so per certo che hanno ricevuto tutti i parlamentari una bella lettera dove il Berlusconi, tramite il suo gesto magico, ha detto chiaramente che non saranno ricandidati chi ha fatto 3 legislature e ha superato i 75 anni di età. Sì, e loro sì, lo sanno bene. C'è anche questo. Secondo te, dunque, dietro questa cosa c'è semplicemente la paura di non essere ricandidati? No, c'è semplicemente che Berlusconi si è rotto i coglioni a mantenere economicamente questa struttura. Secondo me, io l'ho detto chiaramente alla signora Repetti, c'è il fatto che si passa da essere favoriti all'essere esclusi da una... Sì, ma questa non è politica, Giuseppe. Questa non è politica. Ma non c'è niente... Le scatole. Che non sia politica non c'è dubbio. Loretta, Vicenza, vai, Loretta. Sì, Giuseppe, buonasera a tutti voi. Giuseppe, so che tu non accetti i complimenti, però te li devo fare perché sei un ragazzo molto sprintoso, frizzante, ce ne sono pochi come te. Vabbè, dai, Loretta, gradisco molto questa trasmissione. Vabbè, dai, ritornando a noi, io ho un po' di difficoltà di parlare di una certa cosa. Di cosa? Però tanto ritorno, non riesco a parlare bene. Come mai ho tutto questo ritorno? Ma che ne so. Ritorno della voce, dice Carlo. Sì, lo so, ritorno della voce. Non lo so. Allora, discorso sta questo, che ho un po' di problema anche nel tirare fuori, no? Allora, in questi giorni ci sono stati degli arresti eccellenti per tangente rosse e questo viene fuori in nome sempre di D'Alema. Ma veramente viene fuori, ma sempre marginalmente, però, sempre marginalmente. Vabbè, dai, dice Loretta, vai al sodo, dai, forza, dai. Ecco. Io no, ecco niente, questo, ecco niente. Chi tocca quel filo rosso rimane folgorato. Ma e io ne ho le prove. Ne hai le prove? Certo, Felice da Milano, vai Felice, chiudi tu, vai Felice. Sì, ci sono. Vai, dimmi. Anzitutto ti faccio i complimenti come montato. Non me ne frega niente, è tardi, no, dimmi, non vai. Non ti frega, va bene. Comunque D'Alema ha ragione di incazzarsi con tutti i giornalisti e con tutto il mondo. E perché? Perché oltretutto il vino è della moglie. Ci avete mai pensato che può essere un millentare il nome di D'Alema per dire... andare dal Tizio, dal Caio, eccetera, eccetera, guarda, questo qui è il vino di D'Alema, e magari col nome di D'Alema fanno gli affari che devono fare. Ci avete mai pensato? Che no. D'Alema viene utilizzato anche dalle coppe perché è D'Alema. E D'Alema lo tirano in ballo perché è D'Alema. E D'Alema ovviamente fa notizia perché si sa. Va bene, Felice. Ciao, ci sentiamo domani, tutti quanti, 18:30, ciao la Zanzara. Io voglio dire che Parenzio lo raffiguro in un faccia da culo da cane da caccia, mentre invece lei, signor Giuseppe, è, salvando sua madre, perché so che sarai di una madre onorabilissima, è un figlio di tre puttane. Io la trasmissione la riassumo in questo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Radio 24. La passione si sente.